Gualdi, Gualdi, senti che bella musica, Gualdi, Gualdi, la senti che bella musica. Aspetta che non c'è il ducking, ecco, adesso la senti la musica, ti piace questa musica? La sentivo meglio prima, adesso c'è il ducking. Esatto, ma sai che noi la musica, perché poi in realtà è l'estate quando c'era Festival Bar. Festival Bar, io mi ricordo praticamente quello che c'era subito dopo. A Bergamo, Festival Bar, scusa del cinismo. Ciao, ciao. C'era lo zio Tibbia subito dopo. Lo zio Tibbia è appena entrato. Ho sentito una rotonda di bare. E mi ricordo che lui faceva il Festival Bar, appunto. Perché? Ma perché? Lo odiavo il Festival Bar perché finiva sempre tardi. Non mi permetteva di vedere il morro. Ma lo fanno ancora il Festival Bar o è morto? No, penso sia da diversi anni. Sì, sì. Meno male. Mo c'è Battiti fatto da Telenorba che è nell'erede spirituale. Sì, in certo modo. D'altra parte il Festival Bar aveva provato a salvarlo Maria De Filippi, per fortuna non gliel'hanno fatto fare. Una manifestazione canora dove il playback era obbligatorio. Vabbè, solo ma quello è sempre stato così. Ma una volta era obbligatorio pure al Festival di Sanremo, quindi. Era una manifestazione canora. Fece il labiale sbagliato apposta a Sanremo. Il Festival Bar è una manifestazione canora, ma nel senso di can da cane, e ora da ora. Cioè, praticamente c'erano dei cani, appunto. Stasera sei informissimo. Sono veramente informato. Non abbiamo ancora bevuto l'alcol. Ah, è vero. Adesso, perché ragazzi, fateci sapere se vi piace questa idea della prediretta. Cioè, chiacchiere informali fra di noi con questa musica sotto, quando parliamo male di Buccio, normalmente. Esatto, no, di Francesco, perché Francesco che fa? Lui risponde alla chiamata Skype, che è uno stronzo, però sta zitto, là da parte. Aspetta che tu dici qualcosa di brutto su di lui, vedo. Fa finta di essere la merda. La canzone che stiamo sentendo sotto è On a Low di Abby Ozzard, insomma, mai sentita. Non penso che non troverà nessuno con queste indicazioni. No, no. Oh, on a low, low. On a low. Verbo onalare, onalo. Onalo. Bella. Va bene, comunque, fra poco ci sentiamo, ragazzi. In diretta, sempre qui alle ore 21 su Runtime Radio, la radio che prima o poi energia questa sera proprio da smetterà, casa Pizzi. Esatto, la radio che smetterà di essere radio prima o poi, che non è mai diventata stata TV, a proposito Simone, potrebbe. Io ieri ti stavo mandando un messaggio, me lo dici fuori onda, aspetta. Vabbè, dai, siamo in onda, Puccio, forse no, era su Spreaker, era una biastima su Spreaker di un'altra web radio che è quella. Benvenuti signori a questa nuova puntata di OGM Ottimisti. No, era un'altra cosa, oltranzisti gastricamente maleducati, che è la versione nuova di quello che l'altro anno era la versione vecchia, giusto Gualdi? Non lo so, io non ho gli assets che mi piacciono. Esatto. Ma li avremo un giorno. È come se non avessimo mai smesso, in realtà. È la nostra guerra contro Walter Sbano sugli assets. Ciao Walter. Ciao a tutti ragazzi, buonasera, bentrovati. Ma perché stasera facciamo una puntata nuova? Non ne potevamo prendere una vecchia? Ma infatti, ma secondo me questa è la puntata vecchia. Sì, ma è vecchia dentro, esatto. La puntata. Ma perché come noi del resto siamo transisti. Sì, ma poi nel momento in cui la stiamo facendo è già vecchia. Già sta diventando vecchia. Questo che hai appena detto, questo che sto dicendo adesso è vecchio. Vecchio, anche questo è vecchio. Anche vecchio. Potrei continuare tutta la puntata così. Che è vecchio, ragazzi, perché quando domani sarà. Vi ricordo che la roadmap prevede che la prossima stagione sia opportunisti geriatricamente maleodoranti. Questo è tutto un già c'è il titolo della prossima stagione. Questo è spoiler, però. Sì, beh, perché questo segue assolutamente il piano divino di questa, di questo show, che deve proprio trascendere fino alla vecchianza. Okay. Ma tu hai chiesto all'editore se ci rinnova il contratto? Scusa, che secondo me no. Non lo so, ma secondo me con la giusta bottiglia di whisky ce lo rinnova. Il copo. Gela! Va bene, Gela. Allora, questa puntata energia a palla noi, nel prediretto ci stavamo a caricare proprio mamma a pallettone. Mia. Però mi permetto io di fare una cosa privata, dura due secondi ragazzi, perché è proprio una cosa, è successo così oggi, pum pum, mi telefono una persona che non sentivo da molto tempo, e di solito quando ti telefono le persone che non sentivi da molto tempo, è difficile che, o te devono vendere qualcosa o è morto qualcuno, quindi è un po' così. Ok, Google, stop. E se quell'altro parla con nel frattempo Google, Puccio parla con Google, è tutto molto bello. Scusate ragazzi, siamo abituati a sentire l'allarme, perdonate. Niente, perché poi dopo quando scompare qualcuno che a cui volevi bene, di solito si dice sempre ah, brava persona, quanto era bravo, tutti quanto era bravo. In realtà era una persona solare, bisogna usare queste esatte parole, quanto voleva bene a tutti. In realtà insomma io penso che tutte le volte che vado a un funerale ci avrei tante cose da dire, non lo faccio, no? Però in realtà oggi, anzi questa notte, si è addormentato stanco e affaticato un mio carissimo amico, che era veramente una persona particolare. Poi sembra strano, perché poi quando uno allora vedi pure tu, dici no, ma lui era, io l'ho conosciuto, lui aveva 23 anni, veniva dall'Argentina, si era fatto già mezzo giro del mondo da solo per cazzi suoi. Era stato un periodo di tempo alle Canarie, poi era venuto in Italia dicendo ma starò qui 2 o 3 anni, e poi alla fine c'è rimasto 15 anni insomma, alla fine, quindi alla fine aveva trovato un po' una sorta di suo posto. E me lo presentarono una volta che ancora non parlava neanche bene l'italiano, anzi non lo parlava proprio, e mi disse una cosa così, proprio neanche ciao sono Sergio, oppure hola, che cazzo imperio, quello che si dice. Mi disse, allora lui andava in giro con una telecamera professionale, una JVC, una bestia della Madonna, proprio faceva documentari, faceva il filmmaker, quindi era uno molto appassionato. Mi disse, mi strinse la mano, mi guardò negli occhi e disse, la mia camera è la tua camera. Che è una cosa, una stupidaggine, però mi rimase impresso. E devo dire, poche volte mi è capitato nella vita di trovare una persona che quello che ci aveva, magari poco, lo condivideva sempre con tutti. E per me era il mio Ernesto Che Guevara dei Noantri, de noi nel gruppo dei filmmaker. Quindi gli dedico questo 3 minuti, no neanche 30 secondi di canzone della, in questa versione di questa canzone del Buena Vista Social Club. Mo ritorniamo subito. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ebbene così, ciao Sergio, buon viaggio, qualsiasi esso sia, ovunque tu stia andando, con questa canzone ci teniamo sotto e adesso possiamo tranquillamente e allegramente iniziare la nostra trasmissione. Immagino insomma che possa essere sempre un po' particolare, alla fine inizia a parlare di stronzate o anche di cose serie, magari con il nostro tono un po' cazzone dopo una cosa del genere, ma bisogna fare così perché pure lui era così, era un cazzone, quindi... Grande Sergio, andiamo avanti per la nostra strada. Quindi risaluto tutti quanti. Walter, ovviamente, che... Ciao ragazzi, bentrovati. Fammi unire al saluto a Sergio, anche se non lo conoscevo, però insomma, perché non onorare una persona che ci hai appena descritto? Buon viaggio, Sergio. Grande Sergio. Ciao Marco. Ciao. Marco, che tra l'altro l'altra sera ha debuttato al Runtime di Notte. Devo dire anche con con un suo perché, tutto sommato. Alzava troppo la voce, secondo me. Infatti, mica mi domandavo perché mentre parlavo, perché alzavi la voce? Perché no, perché parlavo, perché stavo lì. Sì, capito, devi parlare un'ottava sotto il rutto. Devi esatto. Devi parlare col culo. Ce l'ha la voce bassa, volendo. Soltanto che proprio era entusiasmato dal whisky. No, però era bello, dai, ci siamo molto divertiti. Salutiamo Francesco. Buonasera a tutti e ciao Sergio. Non so chi sei, è la prima volta che ti ho sentito nominare adesso, però visto che immagino che eri importante per Pizzi, per priorità transitiva sei importante anche per me. Grazie, sì, lui apprezza sicuro perché lui è l'amico di tutti, quindi proprio amico di tutti proprio. E a volte dicevo, ma forse sei un po' troppo amico di tutti, però lui diceva così. Ciao Carmine. Ciao a tutti, diciamo, mi unisco anch'io nel saluto. Salutiamo, ma sì, ma sì. Simone, bene. Se sei d'accordo, approfitterei di questo amico di tutti per fare una sorta di gancio, un po' didascalico, un po' pindarico, e dire: ma amici anche delle guardie? Perché in questo periodo succedono delle cose che io mi domando anche le guardie cosa ne pensano, no? Che poi è il tema della puntata. Non so se voi avete capito, perché alla lettura poteva esserci un refuso, in realtà un refuso non c'è nella locandina della puntata di oggi, perché oggi quando parliamo di Black Lives Matter con questo plurale cambiato è perché stiamo parafrasando e in qualche modo anche ironicamente utilizzando un hashtag che invece è importantissimo e del quale probabilmente doverosamente parleremo dopo, perché in America stanno succedendo delle brutte cose, e cercando brutte brutta nella solita maniera un po' scherzosa di OGM di raccontare un fatto di cronaca molto più nostrano, no? No, strano. Posso dire una cosa prima che continui? Oggi, allora, io mi incazzo con YouTube, perché oggi YouTube, e non è la prima volta che lo fa, mi ha consigliato un video di Povia che si intitolava, vabbè, insomma, che tu guardi certi canali con la cronologia attiva e di conseguenza per associazione ho capito, per associazione non... dovresti andare a prendere altra roba, cioè nel senso no, cioè dipende, te ti guardi i video dei complottisti per farti una cultura Google può essere sì no, comunque l'ho segnalato perché con quale segnalazione? No, perché la segnalazione, io ho detto contenuti che aizzavano all'odio e alla stupidità suprema dell'umanità, perché già aveva con i perbenisti antirazzisti, cioè nel senso, no, quello è una brutta gente. Beh ragazzi, però per favore non parliamo di Povia, perché è uno di quegli esseri che veramente mi fa salire, come dire, il sangue agli occhi proprio. Io difficilmente auguro di essere Povia, la bruttità nella vita, però io già ce li ho il sangue agli occhi, ma perché ho la congiuntività allergica, quindi brutta storia, brutta comunque storia. Cioè ragazzi, quello già è Povia, basta. So, cioè, quanto vogliamo accanirci, cioè, basta, cioè, Povia. Cioè, però c'è questa congiuntivite, non so se hai notato, ci sono i poliziotti americani che pare ci abbiano un rimedio spray efficacissimo. Sì, funziona. Esatto. Poi ci devi passare un po' di limone, quello serve per omologazione. Ormai mi sono assuefatto a quello. No, ma te lo dico, io quando taglio le cipolle, pure quelle là forti, non mi succede un cazzo. Vedo la gente intorno a me che piange, lacrime napoletane. Perdonami, guardi com'è una cipolla forte? Esatto, bravo. Ci parla! No, cioè, quando mi hai detto sono abituato, pensavo che fosse. Che cazzo vuoi? Mica l'ho bevuto io. Pizzi beve. Non è colpa mia. Io prendo un bicchierino ogni tanto quando vengo qui. Cioè, Pizzi si attacca. Ma poi, cioè, una bottiglia di whisky che costa 20 euro. Poi lamentare, scusate. 29 euro. Tutti sti sordi. Ma che stiamo a scherzare? Io isolo un attimo. Sbano, prendi in mano la situazione. No, però è interessante. No, dopo voglio indagare su questi 29 euro. Voglio sapere cosa hanno bevuto, la marca. Sono proprio curioso. L'Afroag. Magari un Talisker. Talisker. Sì, magari è bello. Ma che io volevo prendere un Lacaulin, ma. Bevendo un Chivas Regal, che sta bevendo? Un Glenlivet. Un Glenlivet. Un Johnny Walker. Glenlivet, anzi. Un Vat 69. Cioè, penso che sia tipo un gradino sopra il Jack Daniels. Esatto. Un gradino, cioè, nel senso... un gradino sopra il Jeff Daniels. Sì, esatto. Lo di Dumb and Dumber. Anzi, sapete che vi dico? dillo. Oh, ecco. Senti, va bene, mentre lui stappa, dicevamo, insomma, ragazzi, il fatto di cronaca che ispira il titolo della puntatina di oggi, e approfitto del fatto che con noi c'è il nostro esperto di psicotropia, Lobby Frontali. Il nostro nero di fiducia, invece no. Eh no, beh, quello effettivamente ce ne dovremmo procurare uno. Io sono ci sono molte donne che la pensano allo stesso modo. Esatto, vabbè, potrebbe essere quattro potrugenze. Ognuno cercherà la dote migliore. Poi non parlavamo di quel tipo di nero, parlavamo di un altro tipo di nero. In questo caso, che di dote ce n'hanno ben poca. Perché cosa è successo? Che a Roma due neri, intesi proprio come di colore politico, non sapendo i bene fasci, come fare nella vita, durante una manifestazione di quelle di protesta politica un po' casuali, un po' contro qualunque cosa si possa protestare a caso, dal 5G al Covid, alle mascherine, a tutto quello che volete voi, hanno ben pensato di menarsi tra loro. Ma scusa, posso? Ma non è la manifestazione degli ultras? Anche non lo so, perché erano fatto... gli ultras e Forza Nuova, che poi alla fine è finito che gli ultras e Forza Nuova si sono menati fra loro. Ma poi perché? Nessuno lo saprà mai. Guarda, penso che l'unica spiegazione scientifica che si possa dare ad una reazione del genere è culo cazzo Roma Lazio. Non credo che ce ne siano altri. Può essere, sì. Assolutamente. Comunque, sì. Veramente salute, è uno pizzi, dei video salute più belli che abbia mai visto nella vita. Cioè, quello che si stringe la faccia, ma date una pizza. Vi giuro, è bellissimo. Cioè, è uno degli incipit per film migliori mai girati. È quasi meglio dei fratelli ho preso il muro, cioè. Potrebbe essere il seguito spirituale di Aia, ma sei scemo. Però io sono d'accordo con Walter, perché veramente io penso una cosa, che questo periodo di restrizione, alla fine, come l'hanno un po' levato, alla gente andava in piazza a prescindere, cioè, ma protestiamo, ma di che cosa. E poi la cosa bella è che io mi sono reso conto che la gente, questi qua che fanno gli aizzatori delle folle durante queste manifestazioni, non c'hanno. So se vi ricordate la manifestazione politica, quella classica, comunque il politico andava lì con un testo, diciamo così, poi lo interpretava, magari lo caricava, quello che era, però insomma c'era un canovaccio, insomma, tutto sommato. Invece oggi c'è l'effetto blog, perché questi vanno lì senza un canavaccio vero e proprio, ma parlano con gli hashtag, praticamente. Cioè, loro fanno un discorso confusissimo, però l'importante è che dentro ci siano degli hashtag così buttati a cazzo, dove la gente percepisce solo quelle cose lì, tipo Bibbiano. Adesso cioè, no, ci Bibbiano vaccini, un po' come hanno 5G. Fatto Unial, Barillari, eccetera, bravo. Giorno fa, poco prima, insomma, bravo, esatto, è proprio quello che mi riferivo. Cioè, quella sta lì a un certo punto, perché voi dovete vaccini, perché a un certo punto Bill Gates, 5G, Bibbiano, Mercurio, però non l'ho capito io. No, ma poi già adesso c'è la lobby del Mercurio. No, ma mo è uscita un'altra, cosa, raga. Io non la sapevo, alzo le mani, perché veramente a un certo punto quella dei modem di casa. Ti alzi le mani. Gli alzerei pure le mani addosso, però insomma, quello dell'idro, com'è? L'idrocromo, l'idromele. No, l'adrenocromo. Adrenocromo. Ma cos'è? Allora, questa non la so, quindi me lo dovete spiegare. Allora, praticamente una sostanza, paura di rendere a Las Vegas comunque, sì, vai. Io così, è una sostanza che viene estratta dai bambini. I bambini, quando hanno paura, giustamente avviene la reazione di attacco fuga, quindi lì tutto l'asse ipotalamo ipofisiario viene rilasciata adrenalina e noradrenalina nel sangue, e questo aumenta, diciamo, è questo che determina la reazione di paura. E praticamente, spaventando i bambini, rapiscono i bambini, le celebrità, tutta sta gente di sti illuminati, spaventano i bambini e contemporaneamente gli estraggono questo estratto dal sangue, poi da cui deriva questa adrenalina, che loro assumono per mantenersi giovani. Esatto. Un po' quello che si fa a Bibbiano, ma anche a casa Puccio, perché se, insomma, sì, da degli effetti sonori capiamo che Puccio fa questo. A casa Puccio dell'idrocromo c'hanno le scorte lì. Adenocromo, pizzi. Adenocromo. No, scusate, ma avete ricordato, cioè, la puntata di South Park in cui Chef scappa e si unisce al club dell'avventura, sì, che in realtà è un gruppo di pedofili che fa sesso con i bambini, perché fare sesso con i bambini ha scoperto il loro fondatore, che mantiene giovani. Allora si sono inventati sta roba. Esatto. Cioè, questi fanno un mischione di... Sì, che poi Chef risorge tipo Darth Vader. Esatto. Ma poi, cioè, vabbè, a me la cosa che mi ha sconvolto è vedere ieri, cioè ieri, l'altro ieri, qual era? C'era sto sta fotografia di, hai visto la carne quella imballata, no? Cioè quando vai a comprare le fettine al supermercato, no? Che c'è il cellophane con sopra la targhetta, no? Che alla fine dice, no, questa è carne di bambino, ah, uno schifo, una vergogna, signori, ma queste cose succedono perché la carne di bambino, sapete in quanti posti del mondo si mangia? Cioè, regà, io allora, noi oramai sono anni che famo questi discorsi, cioè, non, ogni volta dici, vabbè, siamo arrivati proprio alla frutta, no? Cioè, siamo arrivati al limite. E invece non ci arriviamo mai al limite. No, cioè. No, il peggio è un asintoto, come dicevo oggi. Non, cioè, è proprio una linea retta che cresce, che sale, che sale, che sale. Non so se avete visto, tra l'altro, tanto per raccontare, anche ultima, meno folle e meno grave di questa, però comunque continua a dare la misura di queste settimane, questa rivolta contro i modem di casa, perché sapete, ci hanno messo il 5G nei modem di casa, ragazzi. Esatto. Succede. Però ti posso dire una cosa? Io ne ho accesi due, per essere sicuro. Sono 10 giri. Sai che questa potrebbe essere la salvezza, secondo me, se tu ci pensi e ci ragioni. Secondo me è un'opera machiavellica studiata apposta per levarsi dal cazzo sta gente da internet. Cioè. Ma no, perché poi questa gente continueranno ad utilizzarlo internet, si lamenteranno, protesteranno, mentre come lo fanno, come protestano, come quelli che fanno i sit-in contro i ripetitori, si piazzano lì davanti e mentre stanno nel sit-in stanno su Facebook e chattano tutta la loro disapprovazione. Cioè, che voglio dire, non è che se non concesso che il 5G facesse tutto questo male che sostengono, non è che il 4G fa meno male, però lì siamo proprio al paradosso. Perché il 5G lavora una frequenza specifica, che è 5, che esatto, che è la frequenza 5. 5 mucca, eh? 5 mucca. No, io comunque sono stato troppo ottimista, insomma, ma hai smontato subito il mio ottimismo. Comunque, adenocromo, la mescalina al confronto è un gingerino. Ma io comunque, raga, sono veramente sconfortato, perché pensa che queste cose, come dicevamo sempre, sono sempre state, però facevano parte di quella minoranza silenziosa che non accedeva. Rimanevano in testi piuttosto, come dire, circoscritti. Adesso, invece, a quanto pare, oggi sono il 15% della popolazione, ragazzi. Ragazzi, purtroppo però, il canale YouTube non si nega a nessuno. Non è che devi fare il test di intelligenza per crearti un profilo. Ecco, questo potrebbe essere un po' di preselezione all'entrata, potrebbe essere uno strumento, no, solo che poi commercialmente non conviene. Perdi il 48% delle persone. Lascia stare. Ma sarebbe bellissimo. No, comunque c'è da dire che Google ci sta mettendo del suo, perché sta cercando di proporre molto meno contenuti di questo tipo, o li indicizza. Spesso quei canali vengono demonetizzati dopo tipo un quarto non d'ora. Ce lo dicono, no, andatelo a vedere prima che lo cancellano. Che stanno a fare una mezza guerra, in effetti. Però no, che ma, bene. Cioè, allora c'è una roba che loro internamente chiamano shadow ban. Cioè tu non te ne accorgi, però Google ti indicizza in posizioni molto, esatto, molto basse, e quindi alla fine non ti vede nessuno. Ma è tipo il complotto dei così pedofili, eccetera, cioè tipo il Pizzagate. Esatto, quello pian piano hanno imparato da lì. E tra l'altro, se vi capita, c'è il libro intervista di una tizia di Cambridge Analytica che spiega come hanno fatto a fare determinate campagne, quella di Trump, quella per la Brexit, che dice: noi lo sappiamo che a un certo punto Google o i motori di ricerca di sta cosa se ne accorge, e quindi dobbiamo stare pronti con 2-3 canali paralleli freschi che hanno gli stessi contenuti ma in privato, quindi non possono essere visti, quindi Google non li indicizza. Quando il canale principale viene chiuso, indicizzato, no, perché viene lasciato aperto, però loro passano all'altro, dove mettono, e diventa una rincorsa a mettere il contenuto sempre più sensazionalistico, perché devono mantenere alta l'attenzione su determinati argomenti. Poi lei un po' si scaricava delle responsabilità, certo. Credo che poi sia la stessa persona che è protagonista anche del documentario che c'è su Netflix, sì. No? Sì, è lei. Vabbè, poi in realtà nel libro entra più in dettaglio di determinate cose, tipo l'uso dei meme, che in pratica, siccome Facebook si erano accorti che Facebook riusciva a riconoscere meglio i contenuti scritti, i link e gli articoli rispetto al contenuto delle immagini con testo, allora si sono accorti che utilizzando i meme potevano fare campagne che non venivano riconosciute da Facebook come false, quindi non venivano oscurate, a hanno sfruttato quel tipo di roba nata per fare ironia, per fare campagne di marketing. Poi Facebook ha cominciato a utilizzare il riconoscimento dei testi nelle immagini, sono dovuti passare ad altro. È una continua rincorsa. La cosa che a me puzza di bruciato è che questi, tanto intelligenti da trovare una contromisura tutte le volte, non mi sembrano. Poi boh, ma intanto cerchiamo di capire cosa sarà alle prossime elezioni politiche americane, perché questo è il grande punto interrogativo, no? Se ci pensate, se ci pensi, elezioni, su Twitter lo sappiamo, su Facebook non abbiamo idea, perché Zuckerberg se ne sta simpaticamente lavando le mani, mamma anche mia, se ora sta affrontando. No, ora però ci sono i suoi uomini che sciopero. Se Facebook dal niente, senza un modello di business, senza fare soldi, è diventata l'azienda plurimiliardaria che è, veramente senza nessun motivo alla base, senza nessun sostegno economico reale, perché è evidente che sia uno strumento, più ancora di Google o di altri, creato ad hoc per fare quello che sta facendo. Quindi è normale che dopo non prenda una posizione. È uno strumento governativo a tutti gli effetti di quello che è il governo in carica in quel momento. Adesso la sfortuna vuole che ci sia un governo particolarmente censore, particolarmente, come dire, fuori dai canoni, perché il suo leader è completamente fuori controllo e Facebook è costretta, come dire, a far finta di non vedere, a far finta di non sentire e a non prendere posizione. Probabilmente chissà quante cose il governo degli Stati Uniti ha detto: io qui ci metto una pezza, faccio finta che non te vedo, faccio finta che non lo so, però tu da quest'altra parte poi mi dai questa cosa. Ma sicuro, sicuro. Che ogni tanto, quando lo chiamano a rispondere a delle domande, gli chiedono: ma lei ha fatto questo affare? E lui praticamente lì come un data praticamente che suda, che non sa che cazzo rispondere, perché poi non succede mai niente alla fine. Cioè, quindi ma ti ripeto, cosa. Marco, proprio perché se facciamo il paragone diretto con un altro social nato più o meno in quegli anni, che è Twitter. Ora, Twitter non avrà trovato un modello di business sostenibile per sua natura e tutto quello che vi pare. Però è evidente che per restare sul mercato Twitter fa, come dire, salti mortali. Però Twitter poi ha un'autonomia politica. Certo, è un social network. È diverso nella meccanica, ma è un social network esattamente come Facebook, semplicemente basato su microblogging, a differenza di Facebook, però di fatto fa le stesse cose. Però al di là di questo, al di là di questa, come dire, sfumatura semantica, il discorso è proprio che c'è un diverso approccio anche da un punto di vista istituzionale. D'altra parte, Twitter a un certo punto si permette di dire: noi censuriamo il comportamento del presidente Trump, che poi in realtà non l'hanno neanche censurato, hanno semplicemente applicato le regole che avrebbero applicato a chiunque altro. Dice: attenzione, vi invitiamo a confutare queste affermazioni perché potrebbero essere non veritiere, non è che gli abbiano cancellato o censurato niente. Facebook una cosa del genere non lo farebbe mai, soprattutto non in tempo reale, al limite lo fa a posteriori quando non serve più a niente. Vedi un po' come è successo anche con i profili dell'estrema destra italiana nei mesi scorsi. Insomma, quando lo fai a posteriori comunque non serve proprio. Poi nel caso di specie del presidente degli Stati Uniti non lo fanno e basta, per cui insomma c'è anche un doppio peso. Però Lezzine non si può fare. Non ho mai fatto del male a nessuno. Quello è il bigottismo ipocrita americano, e quello è assolutamente trasversale. Lezzine non le puoi mettere su Instagram. Forse su Twitter, sì, in realtà su Twitter un po' di porno c'è. Se non ci basta, caso. Non mettere il capezzolo di porno su Facebook. Scusami, cioè, nel senso che se metti una persona nuda, però col Photoshop gli levi capezzolo e lui non li riconosce. Probabilmente quindi... non lo sai che non lo riconosce. Probabilmente no, certo. Ma non è che non lo riconosce, è che il capezzolo è, come dire, fuori dal, è considerato nudità fuori dal regolamento. Il capezzolo censurato invece è un tipo di nudità che, diciamo, è passabile. È quello non giapponesi è... che pixellano i piselli. Regolamento, esatto. Bastano 2 pixel in Giappone, insomma. Quanto ci piace gli amici giapponesi. Salutiamo tutti gli amici giapponesi, naturalmente. Niente, io sto cercando mentre voi parlate un canale YouTube di un tizio che non seguo, devo dire la verità, cioè nel senso, perché dopo un po' mi dà fastidio. Però lui è? No, dico, però stai cercando il canale. No, sono iscritto al canale, quindi li vedo. Ma non lo segue, allora. Li vedo i suoi video, però non li vado a vedere, perché i primi tempi me lo guardavo per studiarlo un pochino. Perché lui, secondo me, ha capito. Sto tizio ha capito. Adesso non mi ricordo neanche come si chiama, perché non riesco a trovarlo. copia. Tra i 150.000 dei cazzilli che c'ho. Praticamente questo parla di UFO, no? E vabbè, poi dopo negli argomenti di UFO, chiaramente poi che fai? Non ci butti in mezzo tutte le altre cose. Devo dire che su certe cose, tipo quando è iniziato il discorso della pandemia, roba del genere, è stato molto equilibrato, devo dire. Cioè, nel senso, sta cosa mi ha sorpreso. Però per tutto il resto dice un sacco di porcate, ma proprio porcate. Però la cosa bella è che lui praticamente si è costruito, diciamo, un look. Sto tizio praticamente non si vede mai in faccia, quindi si vede sempre sta maschera, sempre la solita maschera, quella tipo de... Ma non è l'inspiegabile? No, l'inspiegabile da voglia vederlo in faccia. Poi noi parla di UFO, lui racconta varie storie. Okay. Cioè. No, questo invece parla proprio prevalentemente di UFO e vabbè, dei complottismi vari. Lui c'ha la maschera tipo quella di Anonymous, con sta felpa praticamente col originale. Cappello. Esatto, però insomma tutto un po' effettato, sembra un po' tutto al neon, una cosa insomma un po' particolare, e lui parla con sta voce tipo, sembra un, non lo so come te posso dire, sembra un hip hopper praticamente, cioè nel senso uno che tipo che parla un po' tutto, capito, da hip hop, con sta voce è molto veloce e con questo linguaggio che non è mai volgare, però è abbastanza aggressivo, del tipo io vi sto dicendo la verità, se non ci credete siete stupidi voi, cioè nel senso, vabbè, l'arroganza di chi si sente sempre, però è studiata la cosa, cioè lui secondo me e io provoca appositamente, esatto, è questo che io studio da anni sta cosa, perché mi sarebbe piaciuto farlo pure a me. È che secondo me questo qua di sta roba non gliene frega un cazzo, quindi figurate, neanche essere l'arroganza, roba, già proprio non gliene può fregare meno. Lui raccoglie una marea di roba in giro e te ci fa sti video con sti documenti che sono tutti mezzi criptati, mezzi cosati, roba genere, che ecco questa è la prova ragazzi che confuta, e se non ci credete siete voi che volete rimanere nell'ignoranza, perché io ve lo dimostro, guardate questo, guardate quest'altro, adesso e continua. Oh, questo da niente a fine è già cresciuto tantissimo, non solo di visualizzazioni ma di iscrizioni. Alla fine questo te fa due o tre video a settimana e ci si fa più che lo stipendio, insomma, raga. Devi essere furbi. Trump prova a fare la stessa cosa, ma era già ricco prima, per cui insomma, cioè, lui spara cazzate. Lui occupa spazio, insomma. Vabbè, sì, però lui dice con l'arroganza: io c'ho ragione, voi siete delle merde. Cioè, ricordiamoci che lui simbolicamente, come stipendio da presidente, prende $1 all'anno. Quindi generoso lui, è da riconoscere questo suo atto. Pasto, che è un po' di più di quello che effettivamente dà come, sì, cioè, ricordiamo un altro paradosso, che un parlamentare medio italiano guadagna più del presidente della Repubblica degli Stati Uniti, questo non so se lo sapete. Lo stipendio da presidente degli Stati Uniti non è particolarmente importante, credo sia intorno ai $200,000 all'anno. $200,000, sì. No, vabbè, però aspetta. È simbolico, però vai a vedere quanto guadagna il senatore degli Stati Uniti. Poi dopo vai. Vabbè, poi i presidenti hanno anche altre forze. Beh, no, però un attimo, Simone, non lo, sì, d'accordo, però non lo so se la massima carica di uno Stato deve avere cioè le cariche inferiori per istituzionalmente di norma non possono percepire più delle cariche superiori. Non dubito che un senatore degli Stati Uniti percepisca più del presidente, anche perché insomma ci sarebbero poi tutta una serie di problematiche, di congetture ipotetiche dietro. Comunque vabbè, non ne sono sicuro, però per andare negli Stati Uniti andiamoci, perché sta succedendo un po' un casino ormai, è più davvero? Sono quanti, 10 giorni che si protesta per le strade e siamo arrivati al punto, ragazzi, che in alcune città è arrivata la ferale decisione, che poi speriamo che non sia soltanto un cambiare tutto per non cambiare niente, ce lo auguriamo insomma, che è quello praticamente di smobilitare le forze di polizia, perché fondamentalmente la questione è che sono talmente disorganizzate, talmente come dire corrotti certi ambienti, talmente problematici, che smantellare tutto e rifare da capo sembra diventare l'unica soluzione in alcuni stati americani, in alcune città americane. Anche nello stato di New York il budget per le forze di polizia verrà ridotto, quindi insomma sono decisioni epocali e anche, come dire, in pieno contrasto, in piena posizione di scontro con il presidente. Ma non solo quello, io stavo seguendo il thread su Twitter di una senatrice repubblicana di un movimento interno al GOP che si chiama Progetto Lincoln, che sono sostanzialmente repubblicani contrari a Trump, quelli che una volta si chiamavano i Never Trumper sotto elezioni, che spiegava come a Minneapolis il problema della polizia era iniziato quando un personaggio, che poi è diventato il capo sostanzialmente del sindacato dei poliziotti, è riuscito a fare in modo che all'interno del corpo di polizia di Minneapolis ci fossero solo persone, tra virgolette, approvate da lui. Raccontava con tanto di fotografie, poi ripeto, una senatrice repubblicana non democratica, che quando erano iniziati i casini il sindaco di Minneapolis aveva criticato la polizia per l'atteggiamento che aveva tenuto, la reazione del corpo di polizia era stata quella di farsi da parte durante le proteste, sì. Cioè, come a dire, vedete, noi non ci siamo, adesso vediamo come va se non ci siamo noi. Poi sono successi casini peggiori, perché oltre che esserci un giro di soldi abbastanza interessante sui corsi di formazione dei poliziotti, è venuto fuori che nella maggior parte delle grandi città degli Stati Uniti i poliziotti vengono educati con un programma che è sostanzialmente quello dei militari, e vengono addestrati a utilizzare armi che non sono pensate per l'utilizzo in ambienti civili, armi a mezzi. Loro hanno alcune camionette che sembrano dei carri armati, ed è venuto fuori che questa cosa è stata resa possibile perché dall'11 settembre in poi i budget delle polizie locali sono sempre andati ad aumentare, e questo ha permesso che, tra virgolette, si radicalizzasse l'addestramento dei poliziotti, anche in contesti dove quel tipo di addestramento però è sempre esistito. Sì, gli americani hanno questa forma mentis a prescindere. Anche perché se tu vai a vedere, sia i poliziotti che i vigili del fuoco hanno gli stessi gradi dell'ordine militare, cosa che per esempio già da noi non è così. Noi abbiamo i carabinieri, sì, la polizia. Vabbè, carabinieri è una polizia militare. Sì, non è un corpo militare in Italia, dipende dal corpo all'interno. Quindi, nel senso, alla fine, infatti, se tu vai a vedere, non è c'è il tenente della polizia in Italia, c'è. No, c'è il commissario. Sì, hanno anche loro dei loro gradi che ovviamente sono. Hanno ruoli. Sono dei corpi rispettivi con quelli militari, però comunque è una cosa diversa. Sono un po' più larghi, nel senso che alla fine il grado militare c'ha una gerarchia molto più fitta. Diciamo, in polizia sono 3 o 4 i gradi alla fine, se vai a vedere. Per dire, i poliziotti in Italia possono avere un sindacato perché non sono militari, i carabinieri no. Sì, anche se poi, vabbè, pure lì. Sì, vabbè, sì, ci sono le assunzioni. Secondo me stiamo un po' divagando su questioni. No, ok. Volevo leggere un commento di Leo Vargion che ci sta ascoltando in diretta. Dice: scusate, stavo riguardando Boris, buona serata. Io anche gli ho fatto notare che siamo fieri di lui malgrado le corna. Perché insomma. Comunque il discorso che dicevamo sulla polizia americana c'è sempre stato, ma soprattutto ricordiamo sempre che gli Stati Uniti è una nazione nata dalla violenza, quindi alla fine è nella violenza. Qui sono problemi oramai secolarizzati, queste tensioni sociali, razziali, sono sempre state. I primi abitanti dell'America, tolti ovviamente gli indigeni, erano praticamente degli inglesi di colonie penali che venivano praticamente mandati a marcire negli Stati Uniti. Sì, poi io non li leverei gli indiani. Ecco, quello ci dimostra, insomma, tante cose. Volevo dire un'altra cosa, ma pure in Australia, ho sentito che addirittura in Australia sono venuti un po' meglio per quello, per il tipo di era comunque un feudo riconosciuto della regina l'Australia, mentre invece negli Stati Uniti, o meglio continuo a dire negli Stati Uniti, all'epoca non erano tali. Nell'America del Nord venivano proprio mandati reietti di cui si volevano dimenticare, è proprio diverso proprio l'atteggiamento e la gestione, tipo pena di morte o America. Comunque ieri sera con Michele abbiamo iniziato a vedere Mindhunter, la prima stagione, perché io devo vedere la seconda, però vabbè, volevo far vedere anche la prima a Michela, e devo dire, a parte essere una bellissima serie, molto proprio strutturata come se fosse un romanzo, proprio è scritta bene, è fatta bene, mi piace tantissimo. E secondo me anche superiore alla prima stagione di True Detective per certi versi. Però è bello perché c'è un punto, c'è un punto in cui nelle varie conversazioni fra sti tizi, che ovviamente poi fonderanno il reparto di psicologia criminale all'FBI, che fino ad allora invece era molto un organismo molto burocratico, molto molto particolare, a un certo punto allora si domandano, dicevano, noi quando è che abbiamo smesso di essere una democrazia e essere diventati un sistema che è assolutamente concentrato sull'autodifesa. Ma perché quando hanno iniziato a essere una democrazia? Beh, probabilmente loro inizialmente, quando hanno fatto la Costituzione, la Carta dei diritti civili, secondo me per un attimo ci hanno anche creduto. Cioè, nel senso, sì, qualcuno... sì, ma è tutto rimasto sempre confinato al discorso che la democrazia vale se sei americano. Se non sei americano, ti becchi la loro idea di democrazia e la loro idea di tolleranza, che permette di darti la possibilità di essere come loro se te lo meriti. Se non te lo meriti, solo le cose peggiori, ecco. Vabbè. Comunque, se loro già negli anni 70 si ponevano sta domanda, ragazzi, cioè, ma se la continuano a porre ciclicamente, ma poi i risultati se ne vedono pochi. Tra l'altro, a proposito, oggi facevo notare a Gualdi un'affermazione di Colin Powell, non so se avete presente, no? Il mega generalissimo capo di Stato Maggiore delle Forze Armate per tanti anni, uno di quegli intoccabili, che ha detto testualmente, non avrei mai pensato di dirlo in riferimento a nessuno dei quattro presidenti durante i quali io lavoravo per il governo, ma Trump è uno che mente sempre e si è schierato apertamente con Biden. E ricordo che, al dispetto del fatto che sia afroamericano, Colin Powell era repubblicano, assolutamente fortemente repubblicano. Giustamente Varghi in chat ci ricorda il fatto del secondo emendamento che permette agli americani di averci un sacco di boom boom. Poi tra l'altro quello è palesemente un emendamento nato per produrre e vendere più armi, che è sempre stato uno dei loro business. Ma in realtà ne voglio parlare la prossima volta di questa cosa, perché mi devo andare a riprendere gli articoli che lessi tempo fa, perché poi pure questa cosa del secondo emendamento non era proprio, cioè nel senso, se la so un po' giocata, diciamo, perché poi discorso... quello che mi domando, perché vabbè, armi da fuoco, tipo ti devi difendere, ma perché le armi da fuoco? Usa le spade. No, innanzitutto parla del diritto all'autodifesa, infatti, non parla delle armi da fuoco, infatti, dei fucili automatici, infatti, o dei quello che dico io, usa le spade, usa la katana. No, se vai in giro con una spada ti aprono il culo. Il culo, diavolo. Prova ad andare in giro in America con una spada. Dice, no, ma io l'ho comprata. Gli americani riconoscono. Vabbè, ma quelli sono i paradossi, Marco. Perché per prendere una pistola devi aspettare diritto, il porto d'armi. Sì, è diritto di autodifesa. È anche un diritto di autodifesa quella. Posso andare in giro con un coltello di 20 centimetri? Comunque, no, non comunque può. Francesco stava a dire una cosa sotto. Ma ci frega un cazzo. L'hai interrotto tu, però. Ecco. È vero. Dici, infatti, non è che c'è questo vizio, guardi. Cioè, gli pesti i piedi, che c'ha sto vizio di bloccarmi. Guarda, il naso. No, se ce le con me, dimmelo, cioè risolviamo privatamente dopo. Adesso da prendere le armi da fuoco. Spade, giustamente. Con le spade. No, perché hai detto poi che ne vuole parlare dopo. Io quello che so è che comunque bisogna contestualizzare a quando è stata scritta, perché il secondo emendamento. Certo. Fa parte della Costituzione, che è stata scritta nel 1775-76. All'epoca era stato scritto giustamente perché contro chi si dovevano dichiarare indipendenti? La Gran Bretagna. Quindi era stato fatto per garantire quell'emendamento di noi abbiamo il diritto di armarci per combattere eventualmente delle rappresaglie dal punto di dalla Gran Bretagna, nel caso volessero cacarci di nuovo il cazzo. Poi col tempo ci si è appoggiato tutto il fatto della lobby delle armi, altro, però inizialmente è qualcosa di non valido più, è qualcosa che valeva all'epoca. Ma infatti era proprio questo che volevo dire, perché in realtà è quello che volevo, però lo volevo andare a recuperare prima di parlarne, cioè nel senso, in una nascente federazione così vasta, così complicata anche da strutturare e da organizzare, l'autodifesa serviva per la creazione degli autoeserciti, cioè nel senso, comunque nel caso la nazione venisse aggredita, comunque il cittadino era nelle condizioni di potersi autodifendere ed organizzare, che è un discorso totalmente diverso dal fatto che io ho 14 fucili automatici e poi però se ci vado in giro e ci sparo dentro una scuola, Simone, scusa, va bene, cioè nel senso... È vero, siamo nel 2020, però chi ti assicura che l'Inghilterra non voglia invadere di nuovo l'America? Cioè chi te lo dice? Se non fanno bene a difendersi, fanno non si bene, mai fanno cioè, bene, sì, fanno sempre bene, perché ricordate sempre che il nemico è sempre dietro l'angolo. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno costruito una cultura del sospetto, no? Come negli anni 70, quando tutti guardavano dalla finestra quello che faceva il vicino, perché se puta caso ti sembrava un russo, era sicuramente un comunista. Ricordiamo, esatto, cioè, poi, le contraddizioni di un paese che alla fine ha una costituzione talmente democratica dove anche i nazisti hanno diritto ad esistere, ma i comunisti no, però No, ma anche la cosa bella, garantisce la loro costituzione anche la libertà di pensiero. Vabbè, libertà di pensiero e di parola a volte in realtà è considerata addirittura, perché nel primo emendamento è considerata addirittura superiore a quella del secondo, cioè, però a volte la gente vuole toccare quello piuttosto che l'altro. Per esempio, mi ricordo, scusate, questo spiega anche a Gualdi perché pistole e non katane, perché voglio dire, è molto più pericolosa la penna della spada, quindi la libertà di parola è molto pericolosa, quindi devi difendere con le armi, con la idea della spada, sì. Giustamente. Madonna, mi avete ricordato, conoscete il gruppo punk Dead Kennedys, voi amanti della musica? Sì. È impossibile, okay, sono tipo i fondatori del punk americano. Il loro cantante, Biafra, si candidò alle presidenziali americane come unico candidato del Partito Comunista Americano. Ci sono i manifesti su Twitter, sono bellissimi, andatevi a vedere. Ma io continuo a ricordarvi che io sono attualmente ancora iscritto al Partito Comunista degli Stati Uniti. Ed è per questo che non ci puoi entrare, no, e sei fiero. E secondo me mi verranno pure a cercare prima o poi. Ma secondo me tu domani stai a Guantanamo. No, oramai è vecchia la cosa, avrebbero. Anche perché devo dire che leggendo l'organigramma del partito, in realtà veramente stava a parlare di un massimo 150-200 mila persone, quindi non lavora con cellule clandestine. Sono più di quelli iscritti a quello italiano, no, non sono divise in cellule clandestine, ma sono divise in sezioni, cioè no. Montreal, Los Angeles. Come hai fatto a iscriverti ad un partito politico Montreal in Canada, infatti, ad un partito politico di una nazione di cui non sei cittadino? Basta pagare, probabilmente. Esatto, tu fai la donazione. Sei comunista, bravo. Ma quindi era insomma tessera di socio onorario. Ma sì, non è che partecipo alle riunioni di sezione, insomma, mi candido come segretario della sezione di New York. Insomma, però New York, ma come no, New York Garbatella? Scusa, siete di New York Garbatella? Tu vai lì. Tra l'altro, ci stanno tre realtà che io seguo moltissimo: appunto, il Partito Comunista degli Stati Uniti, il Partito Socialista degli Stati Uniti e il Partito Socialdemocratico degli Stati Uniti. Tutti questi partiti ci sono, esatto, negli USA. Sì, negli USA ce ne stanno una marea di partiti. Poi dopo ho trovato il sito, ora mi iscrivo anch'io. Esatto, cioè, poi confluiscono tutti, diciamo, nei due grandi partiti, cioè nel senso, quando finiscono per diventare tutti o fascisti o un po' meno fascisti. Esatto, no, diciamo che ci sono delle scremature, perché il Partito Comunista presenta il suo candidato alla presidenza degli Stati Uniti. E poi lo schifano. Poi chiaramente a un certo punto, allo step successivo, nel senso, aderiscono o al Partito Democratico o al Partito Repubblicano, chiaramente. Comunque, quello che mi ha fatto piacere, cioè nel senso, poi il paradosso, insomma, che la realtà socialdemocratica americana è una realtà in grandissima crescita rispetto, chiaramente, al Partito Comunista, che viene visto, diciamo, più come una cosa vintage, un po' esotica, no? Sta lì, sono anche Caruso. Però, infatti, tutto il mondo è così. No, alla fine stanno lì, sono tipo pet, praticamente. Stanno lì, ah, che carini, questi sono comunisti, no? Però la realtà. Venite a vedere i comunisti. La realtà socialdemocratica, quindi, che poi è l'area anche di Biden, se vai a vedere, cioè, nel senso, comunque, uno che si presenta alle primarie del Partito Democratico, comunque, è uno di area socialista, cioè, cosa che. 10 anni fa, insomma, in America non sarebbe stato possibile. Neanche Trump, probabilmente. Però. Biden, in realtà, tanto socialista, non è più sul liberale. Sanders, scusa, Sanders. Ah, ecco, Sanders. Sì, Biden non mi tornava. Sbagliato. Infatti, ma soprattutto perché molte delle nuove generazioni, cosiddetti millennials, di cui ne parliamo tanto male, di cui, ahimè, ne faccio parte anche io, e forse mi sa anche Walter, per quanto riguarda queste. Soprattutto i giovani comunque sono attivi da questo punto di vista, sono più, cioè si stanno, le nuove generazioni stanno più orientando verso la social democrazia, sì, verso, sì, più. Vabbè, posizioni. Però il fatto che loro comunque studino, diciamo, cose da estrazione del marxismo, perché comunque anche se tu vai a leggere comunque i canali YouTube oppure il giornale del Partito Socialista o Socialdemocratico, comunque la loro estrazione marxista, cioè, è evidente, nel senso, loro la dicono. Poi chiaramente si distanziano perché loro comunque, nel senso, si distanziano dal comunismo perché vanno verso comunque più verso il concetto di Willy Brandt, quindi la socialdemocrazia europea, tutte quelle cose insomma un sì. po' più, però è figo, è affascinante sta cosa, guarda, devo dire sì, soprattutto ci sono diversi esponenti nel Senato, tra cui è diventata famosa la Alexandra Ocasio-Cortez, che ha tipo l'età mia, forse pure più giovane, che comunque è molto attiva e molta posizione vicina a Sanders, che se la senti molto cioè, se ti piace il genere sì, se piace il gender un po' autoritaria, un po' ispanica, no credo insomma sia. Te la trovo subito. No, dai, mo ce la metto. Comunque io intanto nella chat nostra di OGM ve l'ho messo, il canale si chiama Omega. Sì, abbiamo visto. E lui è veramente un personaggio. Devo dire, mi sta sul cazzo chiaramente, però stima perché questi... Però stica anche. Anche stica, però secondo me la cosa divertente è sapere che io sto a guadagnare e te sto a prendere per culo, perché tu sei un cretino, sei un medievale dentro di te. Ma infatti la colpa è sempre di chi compra. Esatto, bravo. Lui vende. Oddio, c'è anche, dovrebbe esserci anche un po' di morale per chi vende, però insomma, alla fine, se vuoi veramente essere stupido. Michela si lamenta del fatto che neanche lei potrà andare negli Stati Uniti per colpa mia, vabbè. Che facciamo? Lascia stare. Fate una separazione strategica e poi In realtà, Michela, vuoi andare negli Stati Uniti? Uccidi tuo marito, lo accusi di essere stato un violento, scrivi un libro e poi vai a fare i comizi negli Stati Uniti. Quel violento comunista di mio marito lì. Esatto, cioè, proprio devi utilizzare queste terminologie qui. Dice Peppe Rizzardo: oh, non mi toccate la Cortez e la mia futura ex moglie. No, vedi. Ma comunque è veramente, cioè, per quando ero, cioè, quando ero ragazzetto. Auguriamoci che Francesca non abbia letto questo messaggio, perché sennò dobbiamo andare a portare un fiore sulla tomba di Rizzardo. Ragazzi, se avete visto Space Force su Netflix, beh, dai, si può fare. C'è una che gli fa la caricatura che le somiglia pure parecchio. È giovanissima sta ragazza. 30 anni, sì. 30 anni, sì. Ma c'ha la tempra, farà carriera. Io però farei notare che però il 50% di tutti quelli che negli Stati Uniti sono di area socialista sono latinoamericani, cioè o comunque so di origine o europea o latina, perché dile quella parola, sono negri. Ecco. D'altra parte l'americano bianco caucasico, quello diciamo proprio lo stereotipo dell'americano statunitense, non c'è un cacchio da fare, è tarato all'origine, cioè non vede vero. Non riesce proprio a guardare il centro, cioè proprio destra poco, o ma perché sono cresciuti in quella maniera là, il paradosso è proprio questo, che magari un giorno la sinistra sarà salvata dagli Stati Uniti, cioè questa cosa, e lì se daremo fuoco tutti, perché lì dopo se daremo da fuoco tutti dopo. Aspetta, mi è venuta in mente una cosa che volevo dire prima, poi ha interrotto Marco. Vai. Non so se mi ha interrotto Marco, però comunque. No, sicuramente non ha interrotto. Però l'importante è che ti ha interrotto Marco. Ah sì, che stavo dicendo, per gli Stati Uniti è molto importante il primo emendamento, libertà di pensiero, anche la libertà di religione è considerata molto importante, però. Manca a farlo al posto, tutte le posizioni dal punto di vista cristiano sono quelle là più. Più radicate, più tutelate, anche creazionista, più. Tra l'altro. Mamma mia, sì, ragazzi. Anche cioè, comunque, in realtà, tanta libertà le altre religioni non ci stanno. Che tra l'altro c'è un documentario bellissimo, andatelo a vedere. Si chiama Hail Satan. Che parla praticamente dei satanisti, di satanisti che si impongono dicendo: ragazzi, se c'è libertà di pensiero, si sono imposti un paesino di mettere anche a fianco, in mezzo alla piazza, anche una statua di Satana. Giustamente, perché dicono: scusa, abbiamo la libertà di religione. Sì. Poi si va a vedere, in realtà sono di casino, cioè non è che credono davvero a Satana. Siccome come pastafariani, vale lo stesso? Sì, ma chi non, sì, sono più dei pastafariani. Tra l'altro, Alexandria o Casio Cortez. C'è anche un canale YouTube al quale mi sto iscrivendo, naturalmente. Ecco, social è proprio e fa AMRS, come che chiede, cioè SMR. Però bisogna dire ad Alessandria qua che questo uso del colore viola per non usare il colore rosso, vai nel benedetto sito del Partito Socialista Americano, lì vedi insomma che non hanno paura di usare colori che gli piacciono, insomma. Comunque c'è anche un canale bellissimo sempre su YouTube che si chiama AJ+, e anche quello è sempre della corrente socialdemocratica, e lì danno proprio giù, Lì tra l'altro la cosa bella è che usano una comunicazione estetica come fanno gli americani, cioè nel senso molto curata, il video fatto bene, con lo speaking fatto bene, cioè non come fanno quelli del PCU, che il PCUS che vabbè stanno lì e c'è il tizio che parla su Skype che non si può sentire, no? E questi no, invece fanno un lavoro, devo dire, guarda, c'è un bel lavoro dietro, c'è un movimento, insomma, fa piacere. Vabbè, ma parliamo di altro comunque. No ragazzi, c'è Leo Vargon che fa una domanda abbastanza interessante, perché ci chiede: che ne pensate di tutte le proteste per George Floyd e i relativi assembramenti? Per voi la causa dell'evento travalica la sicurezza che dovremmo osservare tutti? O gilet arancioni uguale sardine in questo periodo e contesto? Io questo stavo leggendo, non mi era emerso, mi era non riesco un articolo. Scusa, vai. No, mi era comparso solo un articolo in cui comunque degli esperti medici si preoccupano di questa situazione, dicendo che comunque queste proteste aumenteranno a dismisura la diffusione del virus. Certo. Sì. Allora, da un punto di vista, io spero, diciamo, sempre in quello dei Salvini, che Salvini andava, stringeva le mani e si toccava la bocca. Io prego sempre il Signore per questo. Purtroppo il Signore, diciamo, mi si... diciamo, non muore, non dal punto di vista epidemiologico, magari sì, ci sono dei pericoli, però nel caso di un problema così grave come quello, diciamo, delle proteste razziali negli Stati Uniti, posso accettare che la protesta travalichi la sicurezza. È chiaro che per le stronzate all'italiana come i gilet arancioni o le sardine, con tutto rispetto per le sardine, sì, se ne può anche fare a meno. Poi è da capire perché che comunque non ci sono più le sardine, cioè sono mesi ormai che non si vedono, per cui Sartori ha parlato qualche giorno fa dicendo che volevano prendersi una pausa, ma poi si è subito, come dire, è tornato sui suoi passi, probabilmente perché qualcuno all'interno di questo movimento gli ha detto: guarda, se prendi una decisione del genere, parli per te ma non per il movimento. Poi in realtà, allora, scusa, te posso interrompere? Certo. Perché Puccio ha condiviso nella nostra chat un post Twitter di Psicopatia Sexualis, che lui scrive: se è porno questo tolgo, cioè se è porno tolgo, cioè nel senso, ditemelo, se no, è una manifestazione di libertà di espressione e delle sue conseguenze, ed è bellissimo, raga, è tanto liberatorio, perché io, sì, credo di averlo visto un paio, gira da un po' questo video, ma poi pam, è... proprio, cioè sì, che panco, sto vedendo, sì. È assolutamente, no, la, ragazzi, la semplificazione di come dovrebbe funzionare il mondo, visto e considerato che parlano solo quella lingua. No, no, ragazzi, avete presente? Vabbè, ora lo conosciamo tutti perché ci stanno i film degli Avengers. No, ma poi è bello che quello gli fa con la mano così. No, no, ma parliamo. Ok, è tutto a posto. Pum. Avete presente? No, dove adesso rivela una roba un po' più di nicchia, però mo, Capitan America, il suo creatore, uno dei suoi papà, Jack Kirby, era profondamente antirazzista, anche perché era ebreo. E lui ha cominciato a scrivere il personaggio quando l'America non era ancora entrata. No, perdonami, però quando non è che una cosa esclude l'altra, diciamo così. No, sì, assolutamente. Essere antifascisti, antinazisti o antirazzisti, no, assolutamente non è lineare. Ti spiego perché ti stavo spiegando questa cosa. Il povero Kirby, buonanima, mentre in America il partito nazista faceva iscritti, perché prima della seconda guerra mondiale ce ne aveva, cioè, si esponeva contro il nazismo, e disegnava Capitan America che prima della seconda guerra mondiale picchiava i nazisti, e una volta gli hanno citofonato tipo gli esponenti del partito nazista americano sotto l'ufficio per dire: le vorremmo parlare. Questa cosa viene raccontata in una biografia dai suoi due assistenti, Sinnott, l'inchiostratore, e uno che faceva il lettering, che dice: noi non abbiamo capito che era successo, l'abbiamo visto levarsi la giacca, alzarsi le maniche e scendere. Grande. Abbiamo capito che qualcosa non quadrava e ci siamo scaraventati giù, e lui era fuori con le braccia conserte che faceva: ma dove sono andati? Ed abbiamo chiesto: ma che è successo? E lui: no, mi hanno fatto chiamare dal portiere dicendo che c'erano due del partito nazista americano che volevano parlarmi, e io sono sceso a menarli. Vabbè, e i vigliacchi li riconosci subito. Beh, no. Ma anche è stato perché Kirby era tipo 1,45, era pure basso. Ricordiamo che un noto esponente del Partito Nazionalsocialista Americano, Waldi, diciamolo. Ma scusate, ma non Puccio non so, è a seguito di questo. Come evento, lo sai chi è? Quello, ricongelatemi. Ah, beh, il signor Walti. Walt Disney. No, ragazzi, allora fermi, sta cosa è una puttanata. Che non è una puttanata, no, è storia, allora, il fatto che lui partecipava alle riunioni. Poi è chiaro che non, probabilmente non si sarà mai tesserato. È una cosa che è venuta fuori in una biografia che ha scritto un tizio, diciamo così, discutibile. E, diciamo, io ce n'ho almeno due di biografie di Disney. Una è questa. dove viene raccontata sta storia. L'altra è uno che è stato molto critico su Disney come uomo d'affari, però sul piano personale sta cosa dice, sì, viene raccontata in questo libro, in questa biografia, ma oggettivamente non esiste un riscontro oggettivo di sta cosa, era una voce che girava. A un certo punto fa una controconsiderazione e scrive: quando durante il periodo McCarthy venivano denunciati gli scrittori accusati di essere socialisti, se andate a vedere, da Disney non è mai stato denunciato nessuno, e lui poteva, nessuno gli avrebbe detto nulla. Certo, li schiavizzava già, quindi teneva lì, già, perché se li denunciava poi li denunciava più che gli scrittori, no, i disegnatori pare che li abbia schiavizzati, tranne Ubiwark, quello che... Vabbè, comunque... No, c'era una domanda di Walter in sospeso che non ho capito, qual era? Ti pentirai di avermela fatta da fare questa domanda. Ma quindi è nell'occasione che tu hai raccontato che a Kirby è stato insignito, gli è stato dedicato un aspirapolvere con i brevetti NASA, giusto? No, ma vaffanculo, dai, no, dai, no, no. Ma perché? Questo, ma neanche ai brutti tempi di Gusella, una cosa del genere. Vabbè, ragazzi, eppure. Cioè, ricordiamocelo, il Kirby, ragazzi, il Kirby. Ma poi Kirby, volta... c'era pure il giochino, quello di Nintendo, allora, se è per questo. Ma... è un personaggio di Nintendo, sì. Ma tu lo sai che una volta abbiamo fatto scontrare nel soggiorno della prozia di un amico come si dice, il rappresentante Kirby contro il rappresentante Folletto? Presente, ci hanno messo casa ce l'hanno rimessa a nuovo per fare le prove. Cioè, gli acari sterminati. E adesso grazie, signori. Siete stati, esatto, adesso, non sappiamo chi scegliere, lasciateci pensare. Decideremo cosa scegliere e vi faremo sapere. Eh sì, ragazzi. Cioè, da roba tipo Tyson contro Holyfield. Cioè. Sì, beh, oddio. Poi in realtà, da un punto di vista tecnico, non c'è paragone. Nel senso che il Folletto in confronto al Kirby è un aspirapolvere qualunque. Poi dopo, insomma. Io ho la Dyson. Vabbè, Dyson è una cosa moderna, è una cosa da negozio. Dyson è roba da adesso. Cioè. Kirby, veramente, tu dici, ma sti brevetti. Che poi ce li ha davvero i brevetti NASA? Che tu dici, boh. Sì, vabbè, sono i filtri della polvere. Che sono, vabbè. Però comunque parliamo di un oggetto che costava più di 3-4 pensioni della prozia messa insieme. Vi ricordate quel film sui call center che uscì un po' di tempo fa? Il mondo deve sapere. Veniva da un libro di una ragazza italiana che aveva lavorato al call center della Kirby. Il libro si chiamava Il mondo deve sapere. E tra l'altro era ovviamente ironico, per carità. Certo. Però spiegava il sistema di vendita della Kirby. C'è una cosa che mi fece pisciare sotto alle risate. Che ogni volta che cercavano di venderne uno, dicevano: no, oggi c'è lo sconto perché è il compleanno del fondatore. Oppure tutti oggi c'è lo sconto, certo, perché è il decennale della fondazione. Che poi la cosa divertente è che il rappresentante che va porta a porta non fa la trattativa economica. No, la fa telefonica, mi pare. La fa un'altra persona telefonicamente. Quindi vabbè, lasciamo stare. Molto, quindi tu vai cambiate. Lì. Scusate, io ho una domanda. Vorrei sapere il pensiero in parte di tutti, però in particolare di Francesco e di Marco Gualdi, sulla recente intervista metafonica che hanno fatto a George Floyd. Non l'ho sentita, però. Allora. Però cosa ne pensi? Insomma, perché poi è importante anche sentire il punto di vista pure di Floyd. Che cosa diceva l'intervista? Ucciso, polizia, morte, paura, spiro. Saluto, figlia. Beh, sì, bisognava saperlo. Bisognava che qualcuno ci pensasse e facesse questa intervista metafonica. Perché per sapere esattamente che cosa pensava lo spirito di Floyd, mi sembra una cosa più che normale. Chi non l'avrebbe fatto se avesse avuto un K7, un K2, come cazzo si chiama? Una K47. O un gorilla K9, seconda, insomma. Francesco, tu che ne pensi di questa cosa? Insomma? L'utilità, insomma. Non ho visto il video, però comunque, cioè, secondo me dovrebbero... Ma il video che ha visto te, però. Dovrebbero di prassi, diciamo, inserirlo quando fanno anche tipo l'esame autoptico, cioè comunque per accertare ancora di più con maggior precisione. Sì, tribunale dove devi portare la prova, sì, questo, certo, chiaro. Sì, assolutamente. Questo insieme, secondo me, sarebbe il protocollo ideale per... Anche perché chi è più testimone oculare del morto? E infatti, chi più testimone? Testimone mortuale. Ci sono delle serie TV che potrebbero fare al caso vostro. Io non so se le conoscete. Una è una serie che ha avuto due stagioni, se non sbaglio, credo ai primi anni del decennio degli anni 10, quindi intorno al 2010-2009, non ricordo. Insomma, c'era questo telefilm che si chiama Pushing Daisies, quindi schiacciando le margherite, si potrebbe tradurre. No, in cui c'era questo personaggio che aveva il protagonista aveva la capacità capacità di resuscitare, mi pare per 30 secondi, i morti, toccandoli. E in questi 30 secondi lui quello che sfiorandoli, no? No, vabbè, mia, come sei malizioso, Gualdi. Soltanto che poi c'era questa cosa che adesso non lo ricordo bene, però praticamente doveva sempre pagare un pegno per questa, per questa, questo resuscita, questo resuscitare i morti, e, nel senso, se, una, se lui risuscitava definitivamente una persona, un'altra forma di vita nelle vicinanze doveva venir meno, quindi fondamentalmente lui li rianimava solo per pochi secondi, per esempio per chiedere loro cosa fosse successo. Mi fa pensare più o meno a questa cosa, un po' come anche ai zombie, non so, sì, se l'avete mai vista questa che serie, si mangiava in cui cervelli, lei mangia cervelli, per riesce a sapere frullare i ricordi. Sì, poi vabbè, lasciamo perdere i dettagli gourmet. Beh, c'era pure, sì, Ghost Whispered, Medium in particolare, Medium. Che vabbè, andava... però quello è diverso, quelli erano, esatto, cioè non c'erano fenomeni, come dire, quelli erano fenomeni mediatici in cui lei parlava con i defunti, questi erano proprio dei, sì, dei, però lei aiutava la polizia. Sì, lei era consulente. Invece tutta questa cosa, la lobby degli Arquette, deriva praticamente da una serie televisiva inglese che io e Marco abbiamo visto, che si chiamava Afterlife, dove c'era l'attrice che era un mostro, ragazzi, una vecchia proprio brutta, e questa qua praticamente, cioè, era una follia sta serie, perché vabbè, cioè questa praticamente andava in giro e diceva la gente: io sono matta, parlo coi morti, se diceva così era uguale, entrava, suonava a casa della gente, dice: ho parlato tuo figlio, dice sta tutto bene, ma è morta, sì, ma ci ho parlato, che non la porta in faccia, va tutto bene, va tutto bene. Però c'era puntata... Afterlife, che è una serie recente su una original Netflix che è tuttora in produzione, ma non credo che stiate indicando quella, insomma. No, questa è roba almeno una decina d'anni fa, forse pure di più. Scusate, mi dite dove trovo l'intervista metafonica, che voglio sapere se Floyd ha detto qualcosa sulla situazione. No, l'avevo linkata da qualche parte nei nostri chat varie, però adesso la devo andare a cercare. No, siccome quando tu non dai i numeri, sarebbe, Floyd, aspetta, sarebbe te la trovo subito, guarda, perché è facile, basta che scusa, vai. Simo, chiedo a Simone per un mio amico, ma quando tu nonno te dai i numeri, è metafonia? Allora, la metafonia non è quello che ti dicono, ma è il medium. Il fatto che te lo dicano. Ok, esatto. Perfetto. Ok, allora, EVP. No, perché siccome Trump ha detto che Floyd potesse parlare, direbbe George che è molto difficile per la situazione economica. Sono contento di essere stato soffocato. Ecco, l'ho trovato su, mamma mia, l'ho trovato subito. Adesso ve lo linko. Vorrei sapere. Nella chat, ma non, cioè, io dico comunque, cioè, doveva essere segnalato. Ho vergogna, segnalano. No, questo non lo posso segnalare, non ci sono modi per segnalarlo in realtà, cioè, a parte che non parte, cioè, a parte più. Manifesta stronzaggine. Sì, esatto, sei un pezzo di merda, oppure sei sfrutta il nome, sfrutta qualche cosa. Oppure sei matto, capito? Però, per esempio, 5.379 visualizzazioni, vabbè, tutto sommato neanche sto granché, cioè, poteva essere peggio, dai, diciamoci la verità. Poteva piovere. Adesso ve lo dico. Non ha usato gli hashtag giusti. Ci ha messo 50 anni ad aprirsi. Non è che lui l'ha fatto. Ragazzi, pure tra l'altro, settimana scorsa Frankenstein Junior l'ha fatto. Vai, nella nostra chat di OGM. Grazie, vi faccio una cultura. Mamma mia. Ah sì, ok, ho capito. Guarda. Che momento. Io lo butto nella chat di Spreaker. Perché non dobbiamo diffondere questo? Lo sto facendo io. L'ho già fatto io. Ah, ok, va sì, bene. Posso fare? Cancelli il mio. Per rispetto, cancelli il mio commento. Ecco, bravo. Hai fatto bene. Sono però d'accordo. Poi la gente li guarda, gli regaliamo visualizzazioni. Vabbè, d'altronde è cultura pure questa. Anzi, dopo, a proposito, ricordatemi che a proposito di visualizzazione di pubblicità, dobbiamo fare una cosa. Tornando sempre al tema della serata, poi vai. Facciamo. No, tanto... qualcuno di voi stava facendo un'ultima cosa, no? No, vai. No, perché praticamente io ho scoperto che esiste la scheda Google della sede di Casa Pound a Roma. Ah, via sì, Napoleone III. Giusto, molto interessante, è vero. E c'erano immobiliare.it, scusa se parlo del nemico, no? Scusa? No, ho detto che sta già su immobiliare.it, scusa se parlo della concorrenza. No, non credo, perché devo prendere le chiavi. Praticamente c'è questa scheda con soltanto un paio di commenti, insomma, mi sembra ingiusto che non ci siano dei commenti adatti a questa sede, insomma, questa sede di partito, ricordiamo, una sede di partito. Ce n'è qualcuno. Tra l'altro hanno fatto delle foto. Ma in realtà non è la sede del partito, è un movimento. No, anzi, no, no, c'è scritto sede di partito. Ah, occupato, partito. Sì. Vabbè, però Google approssima di. Cioè... di opere futuriste, di materiali. Diciamo il centro sociale culturale, in realtà. Poi, sì, a modo loro, sì, beh, come del resto, tutto ciò che è occupato finisce per essere come dire, in qualcosa sempre culturale. Nel concetto di centro sociale, perché è l'unico modo che è l'unica accezione che gli può dare una parvenza, diciamo così, esatto, ideologica, perché insomma, comunque vabbè. Ci sono due commenti. Ciao Birgi, io vi invito a commentarle, insomma, a mettere il vostro commento. Il primo dice che è un edificio di valore nel cuore di Roma, purtroppo occupato illegalmente dai neofascisti di Casa Pound, si attende da anni lo sgombero per edificio di valore, è un edificio come un altro, insomma, però vabbè. Un altro invece dal nome slavo, che ovviamente sarà il sovranista, splendido, stabile non solo per la fattura, ma anche perché sede dell'importante centro politico-culturale Casa Pound, storia, tradizioni, cultura in uno dei pilastri sociali di Roma e d'Italia, benché molti tendono a demolire una militanza politica evidentemente per loro scomoda, è certo. Poi c'è scritto anche in inglese. Andate a commentare. A me questa cosa che la gente riduce tutto al fatto che sono scomodi. Non so, scomodi, sono dei fascisti di merda. Che esatto, diverso. Se non essere scomodi, cioè una sedia può essere scomodo. Una merda è merda. Scomodo cioè. È uno che dice cose zozza, che mi può dar fastidio, però purtroppo. C'è non è che se fanno i fascisti in memory foam diventano più esatto. accettabili. Cioè. Tra l'altro, io direi anche che sto ragazzo che c'ha il nome slavo, secondo me, quando è passato là sotto, non gliel'ha detto come si chiamava, perché sennò gli cantavano. Zingaro, la zingaro, la, che è proprio tipico, insomma. Ed eventualmente li avrebbero anche menato, perché ricordiamoci, insomma, che c'è questa allegoria tipica, insomma, di queste culture, che è menarsi tra loro, insomma, lo dicevamo inizio puntata. Sì, abbiamo visto recentemente gente che nel dubbio mena, insomma. No, ragazzi, vi ricordate i fascisti su Marte quando fanno vedere grande. I veri fascisti fanno lo schiaffo del soldato, ma senza darsi le spalle? Secondo me stavano giocando a quella roba. Infatti, il gioco è meno appassionante, però più ritmato. No. Ma in realtà quello che avevo capito è che tipo uno era stato intervistato e un altro è intervenuto perché tipo aveva qualcosa da contestare su. No, gli su voleva che no, aspetta, l'ha detto. Ha detto che in pratica uno ha parlato prendendosi la briga, cioè sostenendo di parlare a nome dell'intera manifestazione, quando in realtà erano due manifestazioni diverse. Quello di Casa Pound si è girato i coglioni e l'ha presa a pizze. E dopo questo eccellente inizio, purtroppo le cose non sono andate come ci aspettavamo, però insomma, no, non è finita tutto a schiaffoni come sarebbe stato auspicabile. Tra l'altro stavano a Circo Massimo, raga, quindi i pagliacci erano abbastanza contestuali, pagliacci animali ci stavano. Vabbè, ma poi a Circo Massimo che vuol dire? Cioè, Circo Massimo è immenso, cioè, nel senso, poi erano quattro gatti, cioè pure sta cosa che mi fa ride. Tra l'altro Vargon in chat ci ha condiviso uno zombo meme. Una cosa fatta per noi, guardatelo. Ma sì, per la rubrica racconta un meme. Esatto, vai, raccontalo, Sbano. Meme alla radio. Dunque, c'è lo scontro solenne come un Jedi contro un Sith, che però che, tra l'altro credo siano Anakin Skywalker da giovane. Anakin. Che si scontrano anziché con le lightsaber con un bimbi e un sì con il folletto e con cosa sì grande bravo è piaciuto Vargo, anche bravo, a mio figlio gli è piaciuto sì certo giustamente. Secondo me il figlio, quando ho detto bimbi per sbaglio, ha pensato ai dolci che fa la mamma. Bimbi, buono. Non bimbi. Ce l'abbiamo il bimbi, ragazzi. Mia moglie è contraria. Vabbè, ma d'altra parte, se quando una persona sa. Il bimbi è per quelli come me che non sanno cucinare, voglio dire, chi è in grado non trae nessun vantaggio ad usare il bimbi. Io sostiene che fa bene alcune cose, ma peggio altre, giusto? C'è Rizzard in chat che, come sapete, insomma, è una persona diplomatica e ce l'ha sempre leggero. Dice i fascisti in memory form. No, veramente la battuta che ha fatto Fuccio prima. Ah, ok. Sì, me l'ho perso. Ho detto se li fate più, cioè, quando hai detto sono scomodi, ho detto sì, se li fai in memory foam non è che migliorano. Ah, ok, ecco, adesso la ricollego. Bene. Sì, beh. Vai, Sbano, trova altre notizie. No, dicevo oppure... che io in qualche modo venero, pur non possedendolo, il Bimby, perché mi accorgo che permette, insomma, anche a chi non è particolarmente... Io per avvezzo, esempio, avvezzo. Nella cucina non è che non sia capace, sono pigro tendenzialmente, quindi quando si tratta di preparare qualcosa mi riduco veramente allo stretto indispensabile, non vado mai oltre magari un primo un pochino più elaborato, perché non mi va, non è una passione. Però mi rendo conto che con uno strumento come il Bimby, che ti permette di, diciamo, di limitare le cose che sporchi e fare tutto in maniera scadenzata e sequenziata, potrebbe essere l'occasione per esplorare una cucina più varia, perché io poi ho il problema che per questa mia pigrizia finisco per mangiare sempre le stesse cose, quindi tutto sommato. Però il Bimby costa più di quello che in questo momento sarei intenzionato. Anche se c'è una versione di Lidl tedesca che costa tipo 350-400, che praticamente, stando alle recensioni, chiaramente con le dovute differenze, diciamo che sostanzialmente sia la stessa cosa, insomma. Ma anche quello della Molinex, che adesso non ricordo come si chiama, il multichef o qualcosa del genere, è una versione un po' più economica. Però, insomma, sentite, ripeto, Claudia si è allontanata, però prima mi stava gridando perché stava sentendo. Dice: "A stronzi, che cazzo state a parlare?" Fatto, ha detto che secondo lei il Bimby serve benissimo, cioè fa benissimo i centrifugati, gli omogenizzati e sta roba qua. Ci sono però dei prodotti migliori. Noi abbiamo un robot da cucina che sembra 3PO, mo non vi saprei dire come si chiama, però proprio, cioè, leggero non è. Lo fa? Sì, è tipo un droide. No, però in realtà mia moglie, per esempio, sostiene che il Bimby va bene, vi ripeto, queste cose, però in realtà per fare bene la roba ci sono degli strumenti specialistici, mentre il Bimby, diciamo così, è uno strumento generale, e in realtà se ti compri questi strumenti specialistici un po' per volta separati arrivi più o meno alla cifra del Bimby, però fai bene quasi tutto invece che fare benissimo una cosa. Però ti serve un sacco di spazio. Vabbè, tu devi considerare, io per esempio c'ho una cugina che lei non c'era mai all'ora di pranzo, i figli quando andavano a casa lei lasciava le cose e loro buttavano dentro al Bimby, faceva la pasta attorno, cioè va bene, vuoi dire. Le funzioni sono per questo, non per uno che sa cucinare, non c'ha bisogno del Bimby. Sì, ma infatti quello, se ci pensi, è un po' il mio esordio. Il Bimby verrebbe incontro alle persone come me che tanta voglia, tanta dimestichezza e tanto tempo non ce l'hanno. Poi è chiaro che è un elettrodomestico general purpose nato per permetterti di fare tutto sommato molto bene una gamma infinita di cose. Io ci ho visto fare dei dolci buonissimi, delle creme, dei centrifugati, veramente di tutto, però insomma vabbè. Io per chi interessa, comunque c'è un proiettore da 6800 lumen. Ah, pensavo euro. Okay. In Full HD, Jabber, Full HD secondo me poi sempre il solito discorso, risoluzione 1920x1080, e non sarà vero chiaramente, che fa da 45 pollici fino a 300 pollici, la manovra. 3 anni di garanzia, addirittura al modico prezzo di 123,99 euro, anziché 203,99 euro. Ma quanti lumen? Perché a questo punto che fa anche 3000 lumen di no, luminosità. 6800 lumen, però non dice quant'è il contrasto, per esempio. Dai, su, non mi sembra tutto. Generalmente queste sono quelle cinesate che sono in VGA, no, e poi con una sorta di lente fanno un finto upscaling fino a Full HD, ma veramente sono cianfrusaglie mitologiche. Sì, praticamente loro leggono l'HD, ma poi è proiettore di Jabber, lumen, videoproiettore 1080p nativa, vabbè. Per esempio leggevo che anche quello 1080 portatile di Xiaomi ha le micro lenti che sono in realtà HD ready, però per il principio di funzionamento che c'ha tu lo percepisci assolutamente come un Full HD, però in realtà le micro lenti sono quelle per pico che monta, sono da pico proiettori e quindi sono troppo piccole per essere pico. Vabbè, però quando c'è una scritta piccola te ne rendi conto se ha risoluzione. Comunque la noia, ragazzi, sta montando la noia con questi bei discorsi tecnici. Tu ultimamente ti annoi un po' troppo spesso. Vabbè, ma cazzi dei proiettori. Oggi, ragazzi, quote rosa praticamente zero, a parte Michele all'inizio che ci ha salutato e poi si è resa al fatto che poi sta, no, perché poi sta al telefono, non so, forse con la mamma, non so. Comunque preferisce stare per conto suo. Esatto, va bene, tutto non ci abbiamo Vargion, ci accontentiamo di Vargion. Allora, poi Gualdi, dici tu le stronzate della settimana. Non ci sono grosse stronzate, a parte il fatto che Trump ha fatto il muro intorno a casa sua, no? comunque un bel muro la tua casa. Si è fatto fare la rete di protezione intorno alla Casa Bianca, alla fine ragazzi. Ma avete visto il tweet di Don Winslow, l'autore dei polizieschi, che l'ha citato in un tweet e ha scritto: presidente, ma quindi sto muro l'hanno pagato i messicani? Esatto. Perché lui da qualche parte questo cazzo di muro lo doveva mettere, insomma, quindi. Comunque ragazzi, è uscita in questo momento la notizia che il poliziotto che ha ucciso Floyd gli hanno stimato una cauzione di $1,250,000. L'accusa ufficiale in questo momento è omicidio di secondo grado, quindi non involontario, preterintenzionale. Beh, vabbè, era abbastanza chiaro, cioè. Sì, sì. Negare, ragazzi, sarebbe stato veramente ridicolo. Ci hanno provato, però chiaramente. Sapete, una volta c'erano quei famosi problemi giudiziari americani, quelli insomma quelle persone che andavano a finire in carcere, magari erano innocenti, senza avere magari la possibilità. Spesso quasi sempre di colore. Diciamo che il meccanismo negli Stati Uniti è: che avvocato ti puoi permettere? Esatto, quello che determina se va in galera o no. Tra l'altro. E poi c'è anche il discorso che non c'era quello che c'era oggi, quindi la proliferazione di video, materiali, prove, quindi c'è tutta una serie di cose che poi alla fine diventano elementi che in qualche maniera ci arrivano. Cioè oggi puoi essere, se ti dice bene, puoi anche essere salvato da un errore voluto o non voluto giudiziario, no? Una volta, sapete quanta gente andava a finire sulla sedia elettrica e veramente magari ci andavano proprio bene. Perché comunque quelli della giuria stavano lì e stavano rotti il cazzo, vabbè dai, è colpevole. Ma invece a proposito di cose sbagliate, no? Cioè uno che se sbaglia apposta le cose. Walter, l'esponente della Lega invece che ha postato l'ingresso di Auschwitz come una scuola, come se fosse una scuola, ce ne vuoi parlare? Senti, io non so neanche in grado di capire dove finisce l'ignoranza e dove inizia la malizia, perché quando pubblichi una cosa del genere con un riferimento che veramente tutti dovrebbero conoscere, mettendo questa cosa del genere, premeditato. Sì, ma voglio dire, a che pro? Nel senso che sai benissimo che ti attirerà contenti tante di quelle ire. Vabbè, però lo fai contenti quelli che te seguono. Cioè, comunque, non lo so, secondo me Salvini ha imparato sulla sua pelle che questo tipo di strategia sul medio termine non solo non paga, ma poi permette al primo che si comporta nel tuo perimetro in maniera un pochino più furba di sorpassarti a destra, cosa che sta facendo per esempio la Meloni in questi mesi su di lui. Poi che vi devo dire? Ma secondo me tutti questi sono vittime semplicemente del fatto che oggi la gente è talmente, come te posso dire, è tutto talmente veloce che anche se io te voto domani già mi hai rotto il cazzo, perché poi è così, perché se tu vedi poi alla fine quello che ha imparato Salvini è relativo, come ci ha avuto l'opportunità e tornato subito in piazza, perché lui ha bisogno di questo, cioè, ma proprio non solo un bisogno politico, ma proprio un bisogno effettivo. Lui esiste perché fa questo, altrimenti non esiste. A proposito, ma la cosa bella è che negli ultimi giorni si è fatto il bel tour a Napoli. Ricostruiamo ne ha presi dei insulti, sì, pure lì. No, ne ha presi dei insulti, sono pure pochi. È stata sul suo sito, a un certo punto è uscito fuori il suo tipo manifesto delle date del tour a Napoli, e sullo sfondo ci ha messo come immagine, giustamente, contestualmente, un vulcano. Solo quel vulcano era un pochino strano, non ricordava tanto il Vesuvio. Quel vulcano è Etna, tutta la storia Etna. A un certo punto è uscito fuori un suo tweet in cui è stato fatto vedere che in realtà non è vero che era Etna, era il Vesuvio. È andato a vedere su Facebook, c'era il Vesuvio. È subito messo in mezzo con un post: guardate le fake news della sinistra, questo si limita a fare, se questo è il modo della sinistra di comportarsi, figuriamoci, facendo vedere post vero e post falso, fake news. Solo andando a scavare un pochino nella cronologia di Facebook, si vede che è stato sostituito nello stesso post, è stato cancellato un file multimediale, due minuti dopo ne è stato rimesso un altro, cioè quello che esiste attualmente dell'immagine con giustamente il Vesuvio dietro. E questo ha destato un pochino di sospetti, cioè non solo ha fatto la cazzata, te la stai cercando anche di vendere col fatto che tanto quello per quelli che gli vanno dietro va bene così, cioè sì, è vero, hai visto, vergogna, comunisti de merda, è così, dai, regà, così va avanti il mondo, non è che... Sì, però in realtà poi insomma quello che è venuto fuori è che in realtà nei vari canali social sia stata sempre messa correttamente. Mi spiace dover fare questo debunking, perché insomma io ho detto sono stato il banchiere. Devo smentire questa fake news, perché purtroppo nei vari canali l'immagine corretta è stata messa fin dal primo momento. Tra l'altro è stato dimostrato anche da, diciamo, riscontri sull'immaginina grafica, che il fotomontaggio con l'Etna era fatto anche in maniera piuttosto grossolana. Questa non è una giustificazione, però, perché vabbè, che fosse stato, hanno fatto dei manifesti ben peggiori. Esatto. Walter, basta guardare quelle della Meloni, nel senso dimostra che il fatto che fosse grossolano dimostrava in maniera abbastanza palese che hanno appiccicato l'Etna apposta in sostituzione del Vesuvio, per poi scatenare la fatva contro. Vabbè, contro, ma raccontiamo montaggio. Gli insulti che hai ricevuto per l'estate di Napoli, perché io ho visto video dove c'era un signore che vi ho messo un contributo in cui, fondamentalmente, sempre sulla chat della diretta, in cui viene spiegata un po' tutta la cronologia di questo evento. È stata debunkato dal sempre preciso David Puente. Dicevo, a me dispiace dover sottolineare che era un, perché io sono il primo che ha detto mi comporterò come se la notizia fosse vera, perché tanto dalla Lega non mi aspetto meno di questo, per cui anche se l'hanno smentita, per me è successa lo stesso. Esatto, bravo. Perché sì, tanto con perché la l'hanno perché l'hanno fatta queste cose che... Esatto. Voglio con la Borgonzoni mi ricordo ancora che oggi a Bologna in realtà era Ferrara dietro, quindi anche altre cose, mi ricordo un'altra cosa riferita, ma l'hanno fatto da cialtronate, ragazzi, hanno detto cioè voglia, ma poi sui manifesti in particolare, ma pure errori grammaticali, cioè cose veramente becere e abominevoli. No, dicevo che qualcuno ha seguito i video dei proteste contro Salvini, gente che gridava contro. In realtà non c'è stato granché, perché comunque Salvini ha avuto l'accortezza di andare in certi luoghi in maniera tra virgolette informale, cioè non si è portato una schiera di addetti stampa, di media, quindi anche quando ha dato io qualche video l'ho visto, però cioè nel senso che quando speculare sulla tomba del poliziotto morto, alla fine è sceso un attimo dalla macchina, c'erano giusto un paio di persone arrivati all'evento e se ne è scappato subito, perché ovviamente le poche persone che lo hanno notato che in qualche modo gli stavano facendo le poste gliel'hanno dette quattro con l'enfasi che solo dei napoletani possono avere, insomma. Ragazzi, detto questo, voi sapete che mentre noi parliamo di questo, su Report è andata in onda invece la questione Lombardia. Non so se sapevate che oggi è l'ultima puntata della stagione di Report. L'inchiesta di Ranucci di oggi riguardava questi camici, questi materiali che la regione Lombardia avrebbe comprato, salvo poi essersi giustificati dicendo che era stata una donazione fraintesa da una società che fa capo alla moglie di Fontana e al cognato di Fontana. Sta succedendo un piccolo grande scandalo. Ma che strano tutto questo. L'invettiva di Fontana, con come dire, l'intimazione alla RAI di non trasmettere Report, e ovviamente la Report ha detto gli cassa di risonanza praticamente. Se la tua giustificazione è che invece stai facendo beneficenza, c'è stato solo un disguido amministrativo, non solo ne esci pulito, lo dimostri, fai anche bella figura. Invece no, dicendo che quella se tu cosa poi nasconde vuol dire c'è qualcosa che non va, insomma. Sì, è la stessa storia che hanno fatto querelando, non mi ricordo, quell'ente che ha denunciato il fatto che fanno gaming, cioè che magheggiano un pochino sui dati dei casi, eccetera, eccetera. Cioè, se sei pulito, non lo quereli quell'ente. Mi sono dimenticato. Ora io voglio dire questo, al di là del fatto che premetto che Report post Gabbanelli non mi piace tantissimo, nel senso che in più di una volta hanno preso delle cantonate, spero in buona fede, anche prima in realtà anche Gabbanelli, però diciamo che la frequenza dell'inattendibilità di certe inchieste di Report da quando quando c'è Ranucci in particolare è aumentata. A me piaceva molto Iacona anche, invece diciamo che con Ranucci, però detto questo, mi dispiace che appunto ci siano queste reazioni che ci fanno capire ancora una volta, ragazzi, che sotto il tappeto della Lombardia io non lo so se lo solleveranno mai questo tappeto, ma dovessero sollevarlo, quello che troveranno. Ma è chiaro, sì. La prima volta che l'hanno sollevato è finito in galera Formigoni, ragazzi. Quindi, insomma. il celeste è intoccabile, cioè, figuratevi. Cielino, cielino, ricordiamoci che cielino. Scusate, è per la famiglia tradizionale, però convive col suo migliore amico. Sì, sì, no, coabita, dai, ora vorrei mica dare del ricchezza, cioè del, come dire, no, insomma, coabita, perché in difficoltà economiche, giustamente, gli dà una, si fa dare una mano, ecco, vabbè. E anche qualcosa di più, volendo. No, scusate, Madonna che mi hai ricordato, se vi capita, andatevi a prendere le minute del processo a Formigoni, quando c'è il pubblico ministero che dice, lei non ha mai prelevato dal suo conto in banca per 4 anni. Come ha fatto? E ha risposto: mia madre mi ha lasciato una forte cifra in contanti. Vi giuro, è bellissimo. Vabbè, d'altronde va meglio. Io la leggevo con gli occhi che mi sanguinavano. Sì, sì, eppure, eppure sta gente alla fine la ritroverai da qualche parte sempre. Quindi. No, questi non muoiono mai, insomma, comunque sia. Peraltro abbiamo questo problema. Lo siamo trovati in televisione, Formigoni, scusate. No, non ci ho fatto caso. Però io devo dire la verità, io ho smesso di guardare la televisione lineare. Guardo soltanto, l'ho detto già altre volte, guardo soltanto Propaganda il venerdì. Per il resto non esiste praticamente più nulla. Però ragazzi, insomma, il problema nel problema è che intanto in Lombardia continua a esserci un'infezione da Covid che si muove ad una velocità ben maggiore di quella che ci vogliono far percepire, e mentre il resto d'Italia cerca di uscirne. E qua se provi a dire, a ipotizzare che forse la situazione si risolve solo se la Lombardia la chiudono un po' di tempo rispetto al resto della nazione, vieni anche preso per uno che vuole discriminare i lombardi. Me ne guarderei bene dal discriminare i poveri cittadini della Lombardia, però in coscienza mi viene da dire. No, però io lo trovo divertente il fatto che giustamente, e questo poi è un discorso che anche questo che facciamo, abbiamo fatto diverse volte in altre occasioni, che quando sei tu quello che discrimina, che prendi per culo, che comunque fai la differenza sulle minoranze, sulle razze, sulle etnie, su tutto quanto, no? È divertente, non ci fa tanto ride, quanto ci fa ride. Poi dopo però, quando sei te la vittima della discriminazione, anche soltanto ideale, diciamo così, perché poi magari all'atto pratico non succede, e allora come ci farò del culo? Quanto se ci farò del culo a noi sta cosa? Perché poi alla fine ci ricorda che questa fa parte della nostra storia da sempre, no? Quindi non è una cosa che noi oggi se sentiamo quelli... La ruta gira. Però guarda, faccio presente che molti di quelli che dicono che voler chiudere la Lombardia sia discriminatorio non sono lombardi, e questa è la cosa divertente. Però, però io mi riferisco a Zaia che dice non ci vedranno mai più, ma vattene a fanculo. In Grecia, nel senso, a parte il fatto che mi siete riusciti a fanda sui coglioni una città come Venezia, nella quale io non metterò più piede fino a che non campo praticamente, perché per me possono affondare tutti quanti loro con tutto quello che ci sta dentro. Ma io non ci ho mai messo piede a Venezia, credo che neanche succederà, ma Venezia è sempre stata la patria della speculazione. Il turista al turista a Venezia gli rompono il culo perché è turista, ma proprio è solo quello, è che capito, si lamentano pure perché capito, sì, no, chiudiamo perché tutti questi turisti ci danno fastidio, cioè andate a fanculo voi, no che non andate più in Grecia, che tanto un cazzo volete andare, che non sapete parlare manco l'italiano, sapete parlare, figurate se potete andare in giro. Vabbè, quello manco noi, che c'entra, mossa? No, ma loro peggio, t'assicuro loro peggio, t'assicuro, quindi che ci sono stato due volte negli ultimi 10 anni. Vai. No, che poi cambio quasi discorso agganciandomi a una cosa meglio, che vai. Prima che agganciandomi ha fatto una cosa che in realtà inizialmente mi ha fatto davvero dire vabbè, non possiamo andare più in basso. Poi andando a vedere una cosa ha detto cavoli, questa è stata una cosa meravigliosa, che bello che in realtà è diversa la situazione, parlando del fatto che non parlano in italiano, che non sanno neanche parlare l'italiano. Voi l'avete scaricata l'app Immuni, sì? Sì, no. Sì. No. Però buona parte della gente cercando Immuni si è trovata un'app che si chiama Immune System. Che è la stessa cosa, si sono scaricati quella. È abbastanza la stessa cosa, perché giustamente un'app che stava esiste dal 2015, quindi quando perché c'è cosa, comunque te la fai vedere come è ovvio. A questo punto però, hanno visto che questa gente è un po' pochino strana sta, e hanno iniziato a scrivere recensioni del tipo aspetta, non serve do una stella, perché se c'è qualcuno che come me ha guardato subito le recensioni negative, poi è possibile di capire questa app sia stata realmente scambiata. Vabbè, questa è una cosa vera, un'app inutile e in inglese. Sì, il grosso delle lamentele è di questi italiani indignati del fatto che l'app Immuni fosse in inglese. Che fosse in inglese, ma questa è quello, no, del tracciamento per la presa del coronavirus, è scritto in lingua inglese, una lingua che non si capisce, grazie. Ma non si può mandare un'app Immune System senza poi capire quello che dice, dovrebbe avere la possibilità di cambiare lingua, per me non va bene, io conosco solo l'italiano. Al che, dopo un po', in realtà si è andato a vedere nelle ultime recensioni, ma ci sono centinaia e centinaia, cioè dopo un po' di recensioni negative, magari un po' a sti poracci, che praticamente questi Immune System in realtà è un'app di... che improvvisamente si sono trovati recensioni che non hanno mai avuto in vita loro, però negative, cioè tipo esplorando il corpo umano inglese, una roba del genere. Alla sì, praticamente è un'app educativa. Aspetta, scusa, vai. Sì, è un'app educativa per gli studenti inglesi, giustamente non te la mette a fare in italiano e quindi sta gente l'ha confusa, cioè non sa neanche leggere. Però la cosa che mi ha sorpreso in positivo, se vedete tutte le ultime recensioni, ma queste sono in realtà poche decine, queste recensioni negative con una stella, che hanno comunque abbassato comunque la media delle stelle sull'App Store. Invece negli ultimi giorni ci sono centinaia, ma davvero centinaia di centinaia di recensioni a 5 stelle di gente italiana che dice mi scuso per i miei connazionali cerebrolesi, questa è un'altra app, cioè di gente, ma davvero centinaia e centinaia, cioè almeno 100 volte più, sì, per controbilanciare le recensioni negative, che adesso ha raggiunto il 4,9 come votazione media, e che questa è magari, una cosa che che poi magari è un'applicazione di merda, però insomma beh, sicuramente però vabbè, un po' di luce ogni tanto ci va sempre bene, come le manifestazioni in tutta Italia sul discorso Floyd. È vero che sono inglesi, quindi neanche so come meriterebbero più di tanto, però vabbè, dai, no, insomma, però dai. Però non si meritano neanche il contrario, cioè nel senso, no. Comunque c'è da gente che va là e perché è immuni, ah, questa è un'implicazione, non serve un cazzo, è in inglese, ah, bello schifo il governo italiano, e poi gente che schia roba dei comunisti, non la scaricate, cioè, vabbè, regà. No, ragazzi, io su Quora, che cioè, vabbè, non è il social network più in voga del momento, come si chiama? Quora, Question or Answers, è un... ha scritto con la Q. Quora, sì. No, è nato da un tizio che ha mollato Facebook dicendo che Facebook non aiuta la diffusione della conoscenza, è un cofondatore, non è nato per quello, quello, esatto, e lui ha creato questo social network parallelo dove tu fai domande su vari argomenti che possono essere la vita, l'universo, tutto il resto o questioni tecniche, e la gente più o meno competente ti risponde o ti dà un parere. Io partecipo, è un social network che a me piace, francamente. Sì, bello anche a me. C'è stata una discussione, il social network al quale ti puoi scrivere o con il tuo account Google o con quello di Facebook. Beh, insomma, no, anche da qua, puoi anche registrare. Lo so, però, cioè, voglio dire, deve essere farite sta cosa. Insomma. No, vabbè, quello è il social login. Vabbè, sì, è un SSO, sì. Sì. Vabbè, stavo dicendo, io in questi giorni di thread su Immuni ce ne sono stati diversi. Io ho partecipato a due soltanto, e al terzo stavo tirando il telefono contro la parete, perché con tutto che era stato spiegato da gente con competenze anche molto più alte sicuramente delle mie in ambito di sviluppo software, come funziona Immuni, cioè che non c'è il tracciamento della posizione, funziona col Bluetooth, c'è il polling, i codici seriali, tutto spiegato per bene, come funziona la API di Apple e di Google, perché una parte è pubblica e perché una parte no, insomma ce l'ha spiegato tutto qua. C'era gente che continuava a dire sì, vabbè, però richiede che devi accendere l'antenna GPS, e intervenivano gli ingegneri hardware dicendo no, guarda che lo fa solo su alcuni telefoni perché il controller è in comune tra Bluetooth e antenna. No, aspetta, ti spiego qual è la questione. No, è venuta è che il permesso per accedere alla posizione a livello, diciamo, di autorizzazione su Android è comune, cioè lo stesso microcontroller. È soltanto per la raccolta del permesso, sì, dell'accesso all'hardware. Poi il GPS lo puoi tenere spento. Io per primo, se vuoi poi ti passo il thread, gli ho fatto guarda, funziona così, guarda, me lo installo sul telefono dell'ufficio, c'ho il GPS spento, me la installa, me la fa applicare, continua ad avere il GPS spento e funziona, perché poi alla fine gli ho fatto vedere il video in cui c'era la schermata con il sistema in funzione. Ma comunque chiede l'accesso alla posizione, no, chiede l'accesso all'antenna, è un'altra cosa, stai confondendo lo strumento col dato. Sta cosa è stata, credo, postata da persone diverse almeno 10, 20, 30 volte all'interno dello stesso thread. Tant'è vero, a molti è venuto il dubbio. Stiamo perdendo, guardi, attenzione. A molti è venuto il dubbio che fosse, siccome su Quora ogni tanto parte la bestia di Salvini, che fosse un tentativo di buttarla in caciara. Perché Quora è uno dei pochi social network che non è cascato in queste trappole, perché mediamente gli utenti sono o un po' più istruiti o comunque più attenti. Beh, si vede. Già, sì, che ti chiede quali sono i tuoi interessi all'inizio è una cosa che non vedevo da 20 anni. No, perché serve indirizzarti verso i canali di discussione. Sì, appunto. Quindi è una roba. Cioè, no, sappiamo già i canali che ci interesserebbero. Sì, assolutamente. Io già sto mettendo porno, tette pregna. Banane, due alla volta. Esatto. Ma poi allora app immuni, poi la gente lo ha capito a che cosa serve, perché no, secondo me non cioè l'app immuni, l'app immuni ve la spiego, che manda l'allarme quando sei vicino a un ammalato. Ve la spiego io. L'app immuni è come Nelson dei Simpson, praticamente tu a un certo punto ti compare Nelson e ti fa sei stato a contatto con uno col COVID, e ti fa così, questo serve, cioè. Dice, ma mo che devo fare, ti bullizza io devo dire che non l'ho né scaricata né installata né vista, non so neanche mi sa che non dovrebbe essere operativa, perché sono quattro regioni. Però gli puoi mettere 5 stelle o a uno a casaccio. Però posso andare su Immunosystem. Con calma e per favore, Immuni sarà operativa su tutta la nazione intorno al 15 di giugno. Però ancora nessuno si è espresso su un protocollo, ovvero. Metti che io ricevo l'avviso di prossimità di potenziale esposizione. Che succede? Qualcuno mi fa un tampone? No, non sei obbligato a denunciarti. Io, cioè, sai male che mi hai fatto paura per un attimo. Qualcuno mi fa un tampone, ho pensato a detto calla. Calla, ecco come siamo maliziosi in questo programma. E anche oggi. Esatto, non sei obbligato a denunciarti. Anche il positivo non è obbligato. Io una cosa è la prova, una cosa non senso allo strumento. Però ripeto, fino a quando l'Italia non dirà siamo in grado di fare dei tamponi in numero sufficiente a giustificare l'utilizzo dell'app di contact tracing, per me l'app di contact tracing può rimanere lì sullo scaffale del marketplace, perché di sicuro non l'è stato. Oh, attenzione, che su Quora c'è anche il canale Neuroscienze. Attenzione. Sì, voglio. Io sì, lo so. Quello delle intelligenze artificiali. No, ragazzi, comunque, ma io da pugliese lo palco, lo sto sentendo spesso, perché tipo il presidente della task force pugliese per il coronavirus. Io devo dire che, però, la spiegazione che ha dato lui a un certo punto, ma io posso spammare le robe di runtime qua dentro? Guarda, io a volte nei gruppi di discussione sul retro gaming o i videogiochi ho spammato i podcast nostri. Hai fatto bene. Sì. Lo so. Insomma, lo palco? Lo palco, stavo sentendo un'intervista un po' alle TV locali tipo Telenorba, Antenna Sud, mentre cazzeggiavo lavorando, stava parlando di Immuni in linea generale. Lui sostiene una cosa che francamente, per riflessione, mi ci trovo, che Immuni teoricamente serve a fare non meno tamponi, ma i tamponi giusti. Cioè lui partiva da questo presupposto: se un nucleo abbastanza ricco di persone se la installa, la usa e funziona, io non ho più la necessità di fare i tamponi a strascico, ma li vado a fare soltanto con chi effettivamente può aver avuto un contatto e chi gli è stato intorno. Sì, ho capito, siamo d'accordo, però meno, scusami Carmine, siamo d'accordo, però se tu non mi garantisci che a fronte di un alert mi vieni subito a controllare, okay, tu mi crei un problema, perché intanto mi costringi, se sono una persona responsabile, a chiudermi in casa 15 giorni e poi magari non avevo niente perché non sono stato veramente esposto all'infezione. Senti, il problema è questo: se sei stato in contatto con una persona, tu potenzialmente da quel momento in poi per 15 giorni non lo sai se ce l'hai, quindi lui innanzitutto ti dice sei stato in contatto, quindi potenzialmente sei a rischio, avvisa l'ASL e chiuditi in casa. L'ASL, si spera, prima o poi ti verrà a fare un tampone, ma il problema è che non te lo può fare subito nel momento in cui ti arriva l'allarme di Immuni, perché da quel momento per potenziali 15 giorni potresti risultare negativo e poi non esserlo il giorno dopo. Vabbè, regà, tutto molto bello, però, okay. Cioè, duba. Però, ragazzi, io vi direi una cosa, chiudiamo appunto il discorso immuni, perché tanto si è detto veramente tutto. Magari facciamo dire qualche cosa a Marco, sennò si addormenta. Però no, volevo una lanciare un altro argomento che potrebbe essere anche lo spunto bestemmione per la prossima puntata, perché non so se ve ne siete resi conto che mentre noi parlavamo di queste cose, il nostro simpatico governo ha venduto per la modica cifra di qualche miliardo di euro di una vita guerra all'Egitto. Così. Che ha fatto? Ha venduto per la modica cifra di qualche miliardo di euro, adesso la cifra non la ricordo, però è una cifra decisamente importante, due navi da guerra al governo egiziano. Presente, vabbè, quelli che pagato? Cioè, ma hanno già pagato? Ma stava nel piano Colao sta vendita, o è una roba estemporanea che hanno fatto adesso? No, no, credo, non so, probabilmente queste cose, questi negoziati andavano avanti da mesi, se non anni, probabilmente, e sì, dimostra anche l'atteggiamento completamente remissivo sul caso di Giulio Regeni. Fatto sta che proprio in un momento in cui c'è un ragazzo egiziano detenuto solo perché aveva delle opinioni, che era un ragazzo che studiava a Bologna, ricordiamo, tuttora detenuto, e dopo la morte mai spiegata di Giulio Regeni, tutto l'ostruzionismo, il boicottaggio delle nostre istituzioni da parte di quelle egiziane per non far venire alla luce la causa della morte di Regeni, noi nel frattempo ci facciamo degli affari, perché ricordiamoci che pecunia non olet. Vabbè, insomma, veramente brutta come cosa. Sono abbastanza d'accordo, tutto sommato. Avrei preferito dire no, sai, di un sacco di stronzate, ma è vero, hai ragione. Vabbè, io direi che su questa cosa possiamo la serata, non so voi come la vedete. Io vi è finita la serata, la moca è finita la serata. Andiamocene a dormire, che domani si lavora. Esatto, bravo. Madonna mia, ragazzi. E si va anche in ufficio, non so voi, insomma, io non lo so, ma io stanotte devo dire la verità che alle 4 stavo a giocare XCOM, quindi perché ieri sera mi sono mangiato un kebab mi è rimasto sul 1-2. No, Chimera Squad. Chimera Squad. Sa giocare. Oh, me lo devo comprare o no? Dimmelo tu. Guardi. Me li sono fatti tutti. Guardi, ma secondo me sì. Cioè, è una versione semplificata. Ultra semplificata. Ma ultra no. È una versione semplificata di XCOM. Combattimento, cioè, no, però la gestione non c'è. Sì, la gestione è molto minimale. Però, vabbè, come chi però ha devo dire che insomma è divertente, dai, divertente. Sì. Cioè, diciamo che il gioco costa 15 euro, secondo quanto durerà? Cioè, allora, quanto dura è difficile dirlo, perché poi dipende da... No, io in quanto ho finito, 3-4 giorni. Sì, vabbè, insomma, diciamo che se ci metti non è lunghissimo, diciamo. So tre macro missioni, diciamo così. Poi dipende molto anche da come te lo giochi, perché tante missioni le puoi ritardare, puoi gestire le crisi, quindi aumentare, perché le missioni sono infinite fino a quando non fai quelle principali, per cui... Però diciamo che vabbè, a livello tattico dei combattimenti è interessante, perché sono tutti spazi molto limitati, cioè linea massima, quasi sempre al chiuso, quindi devi essere abbastanza, so, ci devi mettere. Chiaramente la difficoltà cresce. Io mi sto divertendo, devo dire che l'ho acquistato volentieri. È lontano anni luce dalle, diciamo, atmosfere degli XCOM, sì, è più scansionato. Sono tutti cazzoni i personaggi, per cui è più scansionato, perché diciamo che è finita la guerra, quindi sono gli XCOM che stanno lì a difendere sta città 31 che è la non sono neanche l'XCOM teoricamente, sono la Chimera Squad, che praticamente è una branca, diciamo che sì, è una sezione degli XCOM. La sezione 31, esatto, 31 del 91-31, va bene? Bengalese, mi chiede in che lingua deve essere fatto il social network, inglese, perché inglese? Non c'è l'italiano? Monte Rotondino, cioè no, non c'è l'italiano? C'è. Svedese, turco, porcodena, porcanadeni. Vabbè, ciao ragazzi, buonanotte a tutti, ringrazio e saluto ciao. Walter Sbano. Buonanotte. Ringrazio e saluto Francesco Lobby Frontali. Good night, ci sentiamo mercoledì sera con Mono, che sono ospite. Bravo, ospite, sei ospite, devi ospitare. Porti da mangiare? Ma quando è che ci vieni a trovare? Un po'. Quando volete. Ma in teoria adesso dopo può. Giugno. Sì, sì, però c'ho da fare almeno una almeno cose in presenza fino a giugno. Poi, ok, allora poi ti aspettiamo. Un fine settimana puoi venire, vuoi anche 4 giorni. Insomma, vuoi tranquillamente. Ti organizzi e vieni. Noi ti aspettiamo. Vediamo di organizzare quando io sono a Roma, se no mi arrabbio. Paradossalmente potrei più nella settimana. Cioè, il fine settimana sto. Ah, vabbè, ancora meglio, ancora meglio. Ancora meglio. Ok. Tra l'altro ringraziamo e salutiamo Carmine Puccio Canto. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Oh, ma tra l'altro stamattina Morris non ha fatto il messaggio del buongiorno, mi devo incazzare. No, no, su un altro canale l'ha mandato. Su un altro canale è stato canale. Molto veloce. Mo glielo dico, bravo, Dio, bravo. Scriviglielo, scrivi, no, scriviglielo tu. Ma dopo glielo scrivo. Ringrazio e saluto ovviamente Marco Gualdi. Ciao, ci vediamo settimana prossima, è stato bellissimo, proprio divertentissimo. Ok, ciao. Ricordatevi che quasi tutte le mattine escono i podcast e la prossima live è mercoledì alle ore 21 con Mono, questa puntata speciale insieme a Francesco con Lobby Frontali. C'è anche domani mattina alle 7, alle 7.20 domani che c'è Vargas. Hai ragione, live alle 7.20 domani, ricordiamoci il mattino allora in podcast che dura quell'orettina, quei 40 minuti, insomma, che lo ascolto sempre molto volentieri, insomma. Me fa compagnia mentre prendo il caffè al bar la mattina, tanto non puoi parlare con nessuno, devi stare con la mascherina. Esatto, infatti, è carino. No, è carino. Che fai? Prendi il caffè con la mascherina? Come fai? Lo sapevo. Ma lui c'ha la mascherina con lo sportello, però. Esatto. Ah, beh, c'ho la mascherina e i pantaloni. Beve attraverso la mascherina. Dietro, però. Osmosi, osmosi. Vabbè, poi, esatto. Poi ci raccontaci se ti è piaciuto chi me la scuola. Vabbè, ragazzi, scusate, cogliamo i saluti perché devo andare a fare la cacca. Hai ragione. Vabbè, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Dolce un chessina a tutti. Ciao ragazzi.